può fare. L'attualità, anche d'estate, di Alessio Maurizi. Buonasera, buonasera cari ascoltatori, 18 e 6 minuti, cominciamo una nuova settimana insieme con Si può fare, i vostri interventi, le vostre opinioni all'800 24 00 24, staremo insieme fino alle 20:30, ampio spazio per commentare i fatti del weekend, della giornata, naturalmente l'elezione di Carlo Tavecchio, presidente della FIGC, a tra poco. E qui comando io, e questa è casa mia, ogni di voglio sapere, e qui comando io, e questa è casa mia, ogni di voglio sapere chi viene, chi va. La parola chiave per l'Italia dei prossimi anni non può che essere coraggio. Se qualcuno oggi in Italia immagina che la gioventù, i nuovi giovani ragazzi siano dei pigri, sdraiati, bamboccioni, voi siete la risposta che questo qualcuno sta sbagliando tutto. Così Matteo Renzi davanti ai giovani scout ieri al parco di San Rossore. Però poco prima al Financial Times Renzi aveva in qualche modo risposto al presidente della Banca Centrale Europea, l'altro italiano Mario Draghi, e insomma ne è nata una piccola polemica sul decido io, siamo noi in Italia che decidiamo di fare le riforme, non sarà la Troica, non sarà la BCE, non sarà il Fondo Monetario, insomma Italia ha sempre osservato speciale sotto questo profilo, il profilo delle riforme economiche, e allora noi siamo voluti partire di qua, soprattutto da questo ritrovo di scout al parco di San Rossore davanti a Renzi, gli applausi, le parole di Renzi sul coraggio, il coraggio che è forse l'unica cosa che ci rimane al momento, visto che, come hanno sottolineato un po' tutti, al momento le riforme non hanno dato i risultati sperati, siamo sempre lì con la disoccupazione alle stelle e tutti i soliti problemi italiani. Il coraggio, sentiamo anche Lupi. Finalmente dei fatti concreti che tutti i cittadini italiani si aspettavano, da una parte l'avvio delle riforme e dall'altra questa bella notizia di Alitalia. Adesso dobbiamo andare avanti, abbiamo a che fare con il fattore tempo, la maggioranza, il nuovo centrodestra, il Partito Democratico è convinta che l'unica strada davanti è cambiare con coraggio e concretamente l'Italia. Ora con la stessa determinazione dobbiamo affrontare il fisco, la scuola, il lavoro. L'Italia è in grado di farcela, ma ha bisogno di una politica coraggiosa che acceleri sulla strada del cambiamento e delle riforme. E qui comando io, e questa è casa mia, ogni di voglio sapere, ogni di voglio sapere. Non ci resta che il coraggio, se quello che sembra pensare anche Paola Carinelli, onorevole deputata del Movimento 5 Stelle. Gli italiani non hanno i soldi per andare in vacanza e non hanno un lavoro. Quello che serve sono riforme economiche, non certo una riforma del Senato inutile. Finché la luna. È fisiologico che in una competizione elettorale i toni si inaspriscono e magari si giunga anche a dire cose che non si sarebbero mai dette in altre occasioni. Se ho contribuito anch'io, involontariamente, a questo inasprimento dei toni, me ne scuso. Spero di non aver offeso nessuno. E questa è casa mia, ogni di voglio sapere chi viene, chi va. E questo era Carlo Tavecchio, che è stato da poco eletto presidente, come era previsto, della FIGC. Niente cambia, dunque, social network scatenatissimi con commenti, tra poco anche noi cercheremo di parlarne, ci siamo chiesti ma possiamo invitare qualcuno che sarà favorevole a questa elezione, ma è praticamente impossibile, cioè soltanto i presidenti delle squadre di calcio forse sono favorevoli, infatti perché lo hanno votato naturalmente, ma tra i commentatori sarà un coro unanime, basta scorrere adesso in questi minuti social network per vederlo, un coro unanime di no. Facciamo sentire anche la commozione di Giancarlo Abete, presidente uscente, ha fatto 7 anni dal 2007 al 2014 di FIGC, un secondo posto agli europei, 2 mondiali da dimenticare, lui che viene dalla politica, sentiamo. E dopo l'emozione, la preoccupazione, la gratitudine e l'orgoglio la serenità, una grande serenità per quello che ho fatto e per come l'ho fatto, rispettando le opinioni di tutti. Ringrazio la stampa, i mezzi di comunicazione per gli apprezzamenti e le critiche ricevuti. Mi dicono in tanti: sei troppo signore, sei troppo buono, non affondi i colpi quando gli avversari sono in difficoltà, non ti vendichi dei torti subiti. Forse hanno ragione, cercherò di non cambiare, non ne vale assolutamente la pena. 800 24 00 24, cose che possono accadere soltanto ad agosto. È successo a Milano che un farmacista che stava cercando di mandar via un piccione che era entrato nella sua farmacia con la scopa, a furia di cercare di mandarlo via, l'ha ucciso, l'ha ammazzato. Vabbè, un piccione in una farmacia, immaginate, un animale comunque veicolo anche di malattie, sporco, chissà che danni poteva fare, cosa doveva fare il farmacista? L'ha scacciato, l'ha ucciso. Apriti cielo, una manifestazione di animalisti davanti al suo negozio. Anche qua una pagina Facebook con degli insulti che inneggiano addirittura la morte del farmacista. Che cos'altro avrebbe dovuto fare questo povero farmacista? Non si sa. Eccessi, assolutamente eccessi da parte degli animalisti che ormai imperversano. Cose che possono forse accadere solo ad agosto, forse non solo. Ne succedono tante di cose strane ad agosto, forse i media se ne accorgono soltanto adesso. Per esempio l'avvistamento di uno squalo sulle coste della Sardegna. Raccontateci allora anche voi, 800 24 00 24, gli imprevisti che hanno rischiato di rovinare o hanno rovinato del tutto il vostro agosto e le vostre vacanze. Non lo so, l'annullamento del volo, il fallimento della compagnia aerea, siete caduti in mare con il cellulare. 800 24 00 24. Si può fare l'attualità anche d'estate. Emigra, emigra, emigra punk. Emigrata, emigrata, emigra punk. Emigra, emigra, emigra punk. Emigra, emigra, emigra punk. Emigrata, emigrata, emigra punk. Emigra, emigra, emigra punk. Upon arriving to the melting pot, I get penciled in as a goddamn white. Now that I am categorized, officer gets me naturalized. Immigrant punk, immigrant, immigrant, immigrant punk. Now that I'm living up in God knows where, sometimes it gets hard without a friend. But as I am lurking around, I see another immigrant punk. There is a little punk in my face. E diamo la buonasera a Matteo Salvini, segretario federale della Lega. Buonasera Salvini. Buonasera a voi. Se sentite rumori di sottofondo è la bimba di 18 mesi al parco giochi e quindi sono giustificato. Lei e gli altri bambini che giocano al parco giochi a Milano siete o siete in vacanza? No, siamo in Trentino. In Trentino, beati voi. Salvini, per parlare di immigrazione, un tema spinoso per voi, sì, per noi sicuramente, giornalisti, per tutti e anche per gli immigrati a volte. Alfano, il ministro dell'Interno, ha, cominciamo da qui, ha firmato questo provvedimento, una direttiva per rafforzare il controllo contro l'abusivismo sul lungo le spiagge italiane, e ha parlato di Vucumpra, di lotta ai Vucumpra. Apriti cielo, anche qua accuse di razzismo nei confronti di Alfano. Lei che di accuse di razzismo se ne intende, perché gli avranno detto spesso, che ne pensa? Ha fatto bene Alfano a parlare così? Alfano che se la prende con i Vucumpra è come una pornostar che invita la castità. Nel senso che il ministro dell'Interno gliene sbarcano 2000 al giorno, sì, sotto il naso, e poi si lamenta se vanno in spiaggia a vendere abusivamente. Piuttosto che prendersela con i Vucumpra, eviti che partano e che arrivino i Vucumpra, quindi fermi Mare Nostrum, che è un'operazione demenziale. Questa è la campagna che voi state portando avanti adesso. Dico, questa è la campagna, c'è anche sul profilo Twitter di Salvini, se ci andate, c'è proprio la campagna contro Mare Nostrum, contro Alfano. La campagna per spendere in Africa i soldi che stiamo sbattendo via qua, perché con 10 milioni di euro al mese se sbattiamo via qua per Mare Nostrum, in Africa si fanno strade, scuole, ospedali, pozzi, si fa di tutto. Mare Nostrum è un'operazione suicida. Questo sì, però Salvini ne sa benissimo che anche se spendessimo miliardi di euro per aiutare le popolazioni dell'Africa, qualche immigrato ci sarebbe comunque, ci sarebbe qualche vucumpra, qualche venditore abusivo. Qualche è un conto, 100.000 dall'inizio dell'anno è un numero che mai nella storia della Repubblica Italiana si è verificato. Poi domandiamoci perché Francia, Spagna, Grecia, Malta, Portogallo, che hanno le loro belle coste, non hanno Mare Nostrum. E quindi... però sappiamo anche che molti di questi poi chiedono il diritto d'asilo, se ne vanno in Nord Europa. Invece i venditori abusivi, secondo lei, sono gli stessi, cioè quelli che vengono col barcone dopo due mesi sono in spiaggia. Quelli che hanno il riconoscimento di una protezione giuridica sono meno del 30%. Quindi alla fine vuol dire che il 70% di chi sbarca è immigrato clandestino, a cui diamo 40 euro al giorno per visto e alloggio. Ma come gioca sua figlia? Sgozzando il pollo. Dovrei metterla, vuole andare sull'altalena. Sì. Solo che se la metto sull'altalena, la spingo con due mani, il telefonino, non avendo la terza mano, adesso no, ma la così... avvicino all'altalena. Mi dispiace moltissimo perché per causa nostra sta piangendo la figlia di Salvini. È che ha dormito un sacco nel pomeriggio, non era previsto. Detto questo, lo so. Io ho una bambina di tre anni. Non ci sono fenomeni che si arginano con la bacchetta magica, però non si può neanche subire un'invasione senza precedenti che alimenta problemi di ogni genere. Va bene, però questo è un po' il refrain della Lega, lo sappiamo, è giusto, è la vostra battaglia. Però, ma io volevo farla stare al tema, Salvini, non riesco a farla stare sul tema, cioè il tema della direttiva di Alfano contro i Vucumpra. Perché... giusto, io sono stato a Cervia qualche settimana e ce n'erano 150 che fanno concorrenza sleale in nero ai commercianti e agli artigiani italiani che pagano delle tasse incredibili, quindi è ovvio che se uno ti vende la borsa, l'ombrello, il materassino, il fularo, il braccialetto sotto il naso senza mettere uno scontrino, è anche responsabilità di chi compra, quindi per quanto mi riguarda io la direttiva sui venditori abusivi la sottoscrivo, però punirei anche chi compra quella merce perché alimenta la malavita organizzata, ecco. Perché tutta merce che arriva dalla malavita non è questo è un discorso dalla... è un discorso, diciamo, anche dal mio punto di vista fattibile, perché se si dice il fastidio che possono arrecare, le molestie dei venditori ambulanti, tutto sommato basta dire di no, non mi sentirei, cioè ci sono situazioni più gravi che riguardano la sicurezza. Se parliamo di merci contraffatte, allora il discorso si amplia, punire anche chi compra, ma allora anche chi le produce queste merci, magari in Italia, dove le prendono queste merci? Assolutamente, beh, basta andare a Prato, per gli ascoltatori di Prato che ci stanno seguendo, dove c'è un mercato cinese parallelo, clandestino, sotto la luce del sole, di cui le televisioni si occupano quando ci scappa il morto, ma che se oggi pomeriggio la finanza fosse a Prato vedrebbe chiaramente. Perché non ci va? Forse perché qualcuno ci guadagna da quelle cose lì. Ma lei l'ha letta la direttiva di Alfano? Perché da quello che si capisce sembra solo una questione di sicurezza, di ordine pubblico, quindi diciamo niente di tutto quello che sta dicendo lei, diciamo, c'è il contrasto. Che da milanese i problemi di ordine pubblico non sono i Vucumpra. Ecco. Da milanese il racket della gestione delle case popolari, dello spaccio della droga, della gestione della prostituzione è diviso fra bande di nordafricani, di gente dell'est, di extracomunitari in genere, quindi il Vucumpra sicuramente magari ti rompe le scatole, rompe le scatole al commerciante che fa scontrini e a chi si può permettere 5 giorni di vacanza, avere ogni 3 minuti qualcuno che ti rompe le scatole può non essere piacevole. Detto questo, i problemi di criminalità e ordine pubblico in Italia sono altri e, ripeto, sono alimentate da un'operazione che, permettendo a 100.000 persone di sbarcare in casa nostra, sicuramente fossi Alfano mi vergognerei. Perché prendersela coi Vucumpra, lasciando che sbarchino, come è successo ieri, 1.699 persone, ripeto, di cui solo meno di un terzo alla fine avrà una forma di protezione, gli altri saranno riconosciuti come immigrati clandestini, quindi senza diritto di essere qua, ecco, mi dimetterei domani mattina fossi in Alfano. Senta, c'è un'altra questione. Ieri Maroni ha twittato dicendo nell'ultima porcata del governo Renzi contro il Nord, le liste degli assunti nella scuola. Tanto sono, io non ho capito sinceramente perché questa volta ve la siete presa col governo. Che c'entra il governo col concorso nella scuola? È una legge che non viene è una legge del 2011, per intenderci, che permette di scegliere più di una provincia dove svolgere il ruolo, e non è giusta perché io leggevo oggi Repubblica, non la Padania, il quotidiano di sinistra, 245 posti di ruolo a Milano e provincia assegnati in 241 casi a chi arriva da fuori provincia, ma così a Firenze, così a Torino, così a Bologna, salta tutto. Gente che aveva acquisito dei diritti, che si vede cavalcare negli ultimi 15 giorni in nome di non si sa quali meriti acquisiti sul campo. Come non si sa quali meriti? Non è lo stesso titolo di studio preso al sud o preso a Milano? Qua chiedetelo, io ne ho incontrati 3 o 4 di questi precari che rischiano di rimanere precari oltanza qua in vacanza, non leghisti, e non è un discorso di Nord sul Lega mica Lega. Erano tutti infuriati. Di diritti, è un discorso di maggior generosità nei voti in alcune parti del paese, mettiamola così, che sono evidenziate da ogni anno, da quotidiani, da università, ma poi è il principio che non funziona. Io perché sostengo la bontà dei concorsi regionali? Perché se vuoi fare il vigile urbano a Roma e se conosci Roma magari lo fai meglio, se vuoi fare il vigile del fuoco a Milano, dico vigile del fuoco non a caso perché è un problema di gente che arriva dalle regioni del sud, sta per 6 mesi a Milano e poi richiede legittimamente, perché la legge glielo permette, di riavvicinarsi a sud, e a Milano c'è il perenne carenza di organico. Quindi io sono un fautore dei concorsi a base regionale, quindi ognuno ama, conosce e tutela meglio sicuramente la propria realtà. Non è che per caso il governo usa il concorso un po' come un ammortizzatore sociale, perché al sud c'è molta più disoccupazione, questo sì, cioè anche questo è un fatto, insomma, e quindi si dà una possibilità in più forse a chi è disoccupato. Al sud ci sono punte del 20%. Andate a spiegare alle decine di migliaia di precari che sono tali e magari hanno 40, 45, 50 anni, che erano secondi o terzi in graduatoria fino al mese scorso. No, ma questo sono 150esimi. Su questo non è normale, sono d'accordo. C'è stato un cambiamento negli ultimi settimane, credo mesi. Adesso non conosco esattamente questa vicenda, ma è cambiata la graduatoria proprio per via di questo l'applicazione di questa norma. C'era una normativa che prevedeva di poter essere solo in una provincia, cosa che è giusta, altrimenti ti giochi la schedina del portocalcio 1x2. Invece adesso ci si può inserire, trasferire repentinamente anche altrove, senza conoscere la realtà professionale, la realtà ambientale. E mi metto anche nei panni di chi deve fare 1000 chilometri per andare a lavorare 1000 chilometri di distanza, che sicuramente non è una passeggiata, però se ci fossero dei concorsi su base regionale, così come ci sono in altri paesi europei, questo problema l'avremmo superato ampiamente. Senta, da appassionato tra l'altro di calcio, la fresca elezione di Tavecchio presidente della FIGC, voi l'avevate anche un po' difeso naturalmente quando era stato accusato di razzismo, poi era semplicemente una frase. Io conoscevo poco. Me l'hanno fatto diventare simpatico a furia di insultarlo. Sicuramente ha usato parole fuori luogo, mangia banane, non sono parole da presidente. Però che ci sia un eccesso di calciatori stranieri, che spesso e volentieri non valgono un accidente, da milanista me li intendo, a discapito dei giovani delle nostre primavere, è un dato acquisito. Spero che il presidente Tavecchio limiti. Io sono un nostalgico dei 3 stranieri in campo. Perché, ma lei pensa veramente che Tavecchio farà questa cosa? Perché la sensazione è che, al di là della frase, poi questa cosa è stata detta 1000 volte, però ci sono degli interessi tali. Adesso Tavecchio è stato rieletto, confermato, c'è un blocco di interessi, no, nel calcio, delle televisioni. Però io mi ricordo le partite la domenica alle ore 15 con 90esimo minuto di Paolo Valenti con Gullit, Van Basten e Rijkaard. Adesso non vorrei fermare le lancette della storia, però neanche vedere squadre con 11 stranieri in campo, di cui la metà scarsi e sconosciuti, mentre i ragazzi del nostro vivaio non riescono a giocare neanche un quarto d'ora. Non è il principale problema che attanaglia chi ci sta ascoltando in questo momento. Però diciamo, per quanto riguarda il mondo del calcio, seguito, molto seguito dagli appassionati, è un tema questo qua, indubbiamente. Preferirei avere 11 ragazzi della primavera in campo che perdono col Milan, piuttosto che 11 Robinho o Balotelli in campo. Ma lei scommette sul fatto che con Tavecchio si realizzerà questa cosa? Ci spero. Scommetto, non lo so, non ho certezze, figurarsi, però siccome sei impegnato a farlo in maniera abbastanza... Quindi Tavecchio secondo lei rappresenta, cioè, quello che può cambiare il mondo del calcio più di Albertini, può scardinare le logiche delle televisioni e delle società, quello che fino ad ora ha portato a questo, Tavecchio lo può cambiare? Con i dilettanti ha fatto un buon lavoro. E poi ripeto, mi sta sulle scatole l'ipocrisia, quindi tutti i buonisti, gli scandalizzati. Sì, però non è che se uno viene criticato e diventa simpatico solo perché viene criticato, bisogna stare, credo, al merito, altrimenti diventa... No, ma ha detto nel merito una cosa giusta in maniera sbagliata. Ha detto che ci sono troppi stranieri che non sono capaci di giocare a pallone in campo, mentre ci sono degli italiani in panchina. L'ha detto in maniera sbagliata, ma condivido assolutamente il concetto. va bene, grazie, lo lasciamo alla sua bambina Matteo Salvini, buona serata e buona estate. Grazie a voi. A presto, 800 24 00 24, abbiamo il tempo prima della borsa, forse sì, di sentire almeno un ascoltatore. Cominciamo con Piero che chiama da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Posso solo dire quanto è ridicolo e ipocrita Alfano che l'11 di agosto lancia un'operazione spiagge pulite che doveva essere fatta da anni e anni. All'11 Vabbè, Alfano di agosto non poteva farla negli anni in cui non c'era, questo no. No, certamente, poteva lanciarla a giugno agli forse, altri. Sì. Bene, lui l'11 di agosto lancia un'operazione spiagge pulite che per organizzarla e per metterla in atto, questa operazione contro gli abusivi che lordano le nostre spiagge, l'estate è finita e i turisti sono già scappati dall'Italia, perché basta andare a Mentone a 4 chilometri e non ne trova uno. Dove? E gli alberghi sono pieni e le piazze dei centri storici, da Piazza Navona a Fontana dei Trevi a Firenze, sono piene di abusivi che non fanno nemmeno fare una foto ai turisti stranieri che sono assediati. Il nostro turismo è finito, perché da noi l'illegalità regna sovrana, caro, sovrana. Piero, però, si calmi un attimo. È un ipocrita ed è ridicolo. L'11 di agosto lancia l'operazione spiagge pulite. Piero, però si calmi un attimo, perché non vorrei avere sulla coscienza. Comincia a maggio. Sì. Piero, mi scusi, lei dov'è stato in vacanza? Io sono stato su una spiaggia dove in Francia non ne passa nemmeno uno. Ecco, va bene. Ha capito? Sì. E dove gli alberghi sono pieni da aprile a ottobre, perché i turisti sono rispettati, perché i turisti sono tutelati e non c'è un terzo delle forze dell'ordine che ci sono in Italia. Solo che quei pochi che ci sono, la gendarmerie française, interviene e fa il proprio dovere, fa rispettare la legge. La legge! Sì, Piero, ma le volevo chiedere, ma lei è stato in vacanza anche in Italia, ha visto qualcosa, cioè in una spiaggia? In Italia non si può più fare vacanza. Lei non capito? Va in vacanza in non Italia, si può non va più. Fare vacanza, però scusi, capito? Se lei non va in vacanza in Italia, come fa a dire che ci sono gli ambulanti? Dove l'ha visto? Perché ogni tanto ci vado un weekend. E dove è andato l'ultima volta? Dove è andato l'ultima volta? Piero, però non urli. Piero. Vada a Marina di Massa. Facciamo un esempio, Marina di Massa. Durante il giorno non si può stare sdraiati neanche nei bagni privati, va bene? Perché ne arrivano a frotte. E durante la sera tutto il lungomare è presidiato da abusivi. Passano i vigili e sorridono e chiacchierano tra loro. Passa la polizia e fa finta di niente. Però non passa, è colpa di Alfano se i vigili non fanno nulla. Ci sono chilometri di lungomare. Piero, mi ascolti un attimo e si calmi. Mi ascolti un attimo e si calmi. Faccia un respiro, Piero. Siamo un paese finito, mi dica tutto. Sì, allora faccia un respiro e le faccio una domanda. Sia tranquillo. Non è colpa però di Alfano se i vigili urbani di Massa Carrara, quando passano gli abusivi, non controllano, non fanno nulla. Non sarà colpa di Alfano, di chi è colpa? No, la colpa è anche di Alfano. Lui è ministro degli interni, è il capo supremo della polizia. Sì. Perché non li governa? Perché non li fa intervenire? Beh, i vigili urbani dipendono dal comune, che Piero. Che la legalità sia ripristinata in tutta Italia. Sì. Piero, i vigili urbani dipendono dal comune, quindi dipenderà anche dall'indirizzo che mi hai dato in quel comune su come devono operare i vigili urbani. Questo bisogna anche dare atto a chi è responsabile di quella situazione. C'è ancora Piero? Le sparpagliate, non è il comune solo. Come, scusi? Non è solo il comune. Abbiamo no, non è solo il comune, però non ne sarà totale. Non voglio difendere Alfano, però... Nessuno fa più niente in Italia, lo vuole capire e dire chiaramente... No, l'ha detto lei chiaramente, quindi non c'è bisogno, lo dico anch'io. Piero, grazie. E mi dispiace che questo paese sia finito così, per colpa di questi netti ipocriti. Operazione spiagge insicure, l'11 di agosto. Grazie, buona serata, borsa. Parlare con il mio sole, scoprire il mondo che c'è, niente che non si possa fare. Si può fare. Si può fare. L'attualità anche d'estate. 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Tra poco cominciamo a sentire i vostri interventi. Questa sera vogliamo, vi abbiamo chiesto di partecipare anche sulle cose che accadono solo ad agosto. Dovete chiamarci e dirci gli imprevisti che hanno rovinato, che hanno rischiato di rovinare il vostro agosto, le vostre vacanze. Siamo partiti dalla storia assurda del farmacista di Milano che per scacciare un piccione lo ha ucciso e si è trovato davanti alle proteste degli animalisti che lo volevano morto. Addirittura cose che accadono solo ad agosto, oppure altre assurdità che accadono ad agosto, animali più strani avvistati da tutte le parti, gente rimasta a terra per gli scioperi delle compagnie aeree. Ognuno può aggiungere quello che vuole. Mettiamo in palio per il racconto più originale, più bello, più divertente anche questa sera i biglietti per la mostra di Andy Warhol a Roma. E cominciamo a sentire Moreno che ci chiama dalla provincia di Verbania. Buonasera. Buonasera, buonasera Alessio. Eccoci qua, amore. Sì, io vi posso raccontare una storia un po' strana che sta succedendo qua in questi giorni qua sul Lago d'Orta. Io lavoro sul Lago d'Orta e guido il battello di linea e da un po' di giorni a questa parte qualcuno dice di aver avvistato un coccodrillo. Nel lago, sì, però diciamo che nessuno è mai riuscito a portare una fotografia o comunque... Non si fa fotografare il coccodrillo. Non c'è niente da fare, non si riesce a fotografarlo. E comunque tutti conoscono qualcuno che l'ha visto, però nessuno però mai portato. Tutti conoscono qualcuno che l'ha visto, però nessuno che dica di averlo visto lui in prima persona, e quindi sa molto di bufala, no, insomma. E diciamo che anche la stampa, diciamo che si è data aiuta da fare su questa cosa e comunque... aiuta a creare il mito, il falso mito. Sì. Vabbè, io l'ho detto, di qualcosa bisogna pur campare anche ad agosto, parlando dei media, però l'avvistamento della medusa di 1,5 metri è una cosa vera, così come il pesce cane, c'era anche la foto. In una spiaggia sarda. Tutte cose poi che riguardano il nostro rapporto con gli animali. Sì, certo, perché anche perché un coccodrillo nel Lago d'Orta non potrebbe proprio vivere, diciamo. Quindi nel caso sarebbe... La temperatura non lo consente. Non potrebbe vivere, neanche se fosse stato buttato lì da qualcuno che lo ha comprato e poi lo ha... Assolutamente, vivrebbe veramente pochi giorni. Va bene, va bene. Grazie Moreno, grazie mille per aver giocato con noi. Italo da Como, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Io volevo solo complimentarmi, congratularmi col presidente Tavecchio, sì, che nonostante l'esagerata, indegna, incredibile campagna che gli ha montato sopra sulla sua, chiamiamola, sfortunata frase, che secondo me si è detta ovviamente sarebbe stato meglio. Beh, sfortuna, però se l'è andata a cercare, ragione. Dai, la sfortuna è che è stato sfortunato. Sì, ma infatti, sì. No, si è andata a cercare, però per altre cose... magari più grave. Però è curioso, no? Perché Tavecchio si dice non è che uno ha sbagliato una frase che non, quindi non può essere eletto, va bene. Poi qualcun altro dice ma non è che non può essere eletto solo perché ha 71 anni e ci potrebbe essere qualcuno più giovane, va bene. Non è che non può essere eletto solo perché ha 4 condanne per reati fiscali in passato, ma bisogna per forza andare a cercare uno così. Chi ha fatto l'imprenditore in quegli anni là... ci può anche stare, voglio dire. Cosa poi ci può stare? Chi conosce le vicende e che uno ha 4 condanne. No, ma è tutte le cose insieme che creano un identikit. Tutte le condanne messe assieme in quei tempi là, sì, di giungla amministrativa, guardi che erano 2 milioni in tutto. Cioè, sì. Però Italo, mi tolga una curiosità, lei è un appassionato di calcio? Lei segue il calcio, Italo? Certo, cavolo, se lo chiede essere no. Per chi tifa? Ma guardi che fino prima di quella frase lì, sì, nessuno aveva da eccepire niente. Però si diceva che il mondo del calcio ha bisogno di un rinnovamento, che bisogna tornare ai settori giovanili, che l'Italia ha fatto delle figuracce, eccetera, e che bisognava cambiare. Esatto, però voglio dire, fino a prima di quella frase lì, sì, nessuno aveva avuto niente da eccepire. Ma non lo conosceva nessuno, Tavecchio, sicuramente. Ma lei da tifoso, esatto, per che squadra tifa, Italo? Per l'Inter. L'ha detto come se fosse la cosa più ovvia del mondo. Certo, è ovvio, per chi dovete tifare? Per l'Inter. Per me sì. Da tifoso dell'Inter o comunque da appassionato di calcio e da sostenitore di Tavecchio, perché fra l'altro lei sostiene Tavecchio? Perché lo hanno criticato o perché proprio ha letto il programma? Ma perché come ha detto prima il vostro ospite Salvini, sì, a pure di dargli addosso in una maniera così violenta è diventato anche simpatico, cioè, capito? Uno potrebbe anche essere un criminale forse, nazista, però se viene criticato le diventa simpatico. No, cosa c'entra? Mica non è criminale. No, ho detto uno potrebbe essere anche un criminale della peggior specie, ma siccome viene criticato da tutti, allora lei sta simpatico. Vabbè, anche questo è un punto di vista. Lei però critica, sì. Un contro è il linciaggio, capisce? Va bene, non capisco perché secondo me non c'è stato nessun linciaggio. Comunque, di un linciaggio mediatico, beh, per lei no. Sì. Per me sì. Va bene, Italo, grazie, buona serata. Ernesto da Roma. Buonasera, dottore. Io ho telefonato perché ho sentito l'intervista di Matteo Salvini. Sì. Io che le vittime non le ho mai potuto di vedere, per me erano come il fumo negli occhi, espressione di cultura lombarda. Scusi, la sentiamo male, Ernesto, la sentiamo... Io ho detto benissimo. Sì, noi non molto, allora cerchi di parlare vicino al telefono. Sì, parlo vicino a te. Dicevo, io che i leghisti li ho visti come espressione di una subcultura lombarda, come fumo negli occhi, a sentire Salvini parlare del problema degli immigrati mi viene voglia di votare Lega la prossima volta, perché a Roma, guardi, non se ne può proprio più. Se non gli lasci un euro di mancia ti dicono la macchina, per non parlare dei semafori, poi a Piazza Navona... Cioè se non lasci la mancia ti rigano la macchina? Sì. A lei è successo questo? A me non è successo, però conosco gente che gli è accaduto, come hanno aggredito a Piazza di Spagna dei turisti che non volevano, non so, dare una mancia, un'elemosina, e sono diventati aggressivi, sono troppi, e questo sindaco Marino, che sarà un buon chirurgo, ma come sindaco non vale niente, tra l'altro fa togliere i tavoli a Piazza Navona quando sono una fonte di risorsa, un'attrattiva per i turisti, è bello, arriva da cena un paio di volte al mese a Piazza Navona, ed è bello arrivare lì e vedere questi tavolini pieni di turisti che mangiano, pagano, si divertono. Sì. Piuttosto togliessi i fracassoni, i saltimbanchi. Cosa sono i fracassoni? Fracassoni? Che in traccia non ti fanno cosa camminare. Cosa sono, Ernesto? Piazza. Ernesto, cosa sono i fracassoni? I fracassoni sono quelli che suonano mentre tu stai seduto al ristorante e ti rompono, ti massacrano i timpani delle orecchie. E poi ti chiedono la mancia. Senta, ma questa ordinanza, questa direttiva quindi di Alfano, lei la approva? Questa direttiva WCUMPRA? Oppure solo fumo negli occhi, come diceva un po'? Mi sembra propaganda, onestamente. Mi sembra propaganda. Mi sembra propaganda perché sarebbero altre le cose da fare. Bisogna andare a prendere il problema alla radice, cioè fare qualcosa verso queste immigrazioni. Capisco la gente che scappa dalle guerre, ma scappa dalla guerra per venire a morire nel Mar Tirreno, nel mare sotto. No, ma che ci sia un problema di immigrazione. Io ho detto solo anche a Salvini, ma lo ripeto, che se parliamo della lotta all'abusivismo, delle merci contraffatte, c'è sicuramente un tema. Se parliamo del fastidio che possono dare i venditori ambulanti, è un fastidio piuttosto relativo. Io non conosco casi di persone che abbiano subito delle aggressioni, come dice lei, hanno rigato la macchina, si sono dato la mancia, e questo sarebbe ovviamente assurdo e gravissimo. Situazione tipo al mare, passano, tu dici di no e se ne vanno, non è un gran fastidio, onestamente, non credo che sia un grosso problema per nessuno, però naturalmente ci sono situazioni, quindi io parlo per il mio caso personale. Ernesto, grazie, buona serata. Stefano da Milano. Salve, buonasera a tutti. Volevo dire fare una domanda a Alfano tramite voi, se poteva venire a fare anche le porti puliti, visto che siamo in una situazione che i lavoratori stranieri, non c'è nessun razzismo, i lavoratori stranieri ci stanno sopraffando, noi italiani stiamo a casa senza lavoro, e fai domanda alle aziende che sono colpevoli anche loro, perché automaticamente se vai a fare domanda la prima cosa che ti chiedono è di dove sei, se sei italiano ti lascia, no, non vai bene perché costi troppo, perché è questione di regolamentare l'afflusso delle persone che vengono a lavorare, non è per averla con nessuno, però non si può, perché poi c'è l'escusante del 20% che deve esserci, e succede sempre le solite cose, e sta succedendo sempre di più che gli stranieri, non ce l'ho contro di loro, ma dovrebbe essere una cosa regolamentata, perché io ho una ventina di amici che sono a casa senza lavorare perché non trovano un lavoro in quest'ambito. In quale ambito però, mi scusi? Nell'ambito dell'autotrasporto, dell'autista. Sì, sì. Questo è un ambito nel quale sicuramente c'è concorrenza tra italiani e stranieri. In altri ambiti però non è così, perché spesso sì, fanno lavori che gli italiani non farebbero, dalla badante a altre cose. Quelle sono sì. le solite scusanti, perché non ma non è una scusante, cosa vuol dire una scusante? È semplicemente una situazione diversa da quella che raccontava lei, sì. Io conosco tante persone che hanno un titolo di studio, sì. Source per gli anziani, e stanno a casa però non trovano lavoro. Come mai? Va bene, va bene, di situazioni ce ne sono tante. Grazie Stefano, 800 24 00 24. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra un attimo. Si può fare l'attualità anche d'estate. E salutiamo Ivan Zazzaroni, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao, benvenuto. Allora, si è chiuso a riccio il mondo del calcio, confermata, era attesa, insomma, l'elezione di Carlo Tavecchio, nessun colpo di scena, qualcuno aveva detto un passo indietro di tutti e due, solo lui, mi sono andato di più se vengo, se non vengo, eccetera. Invece poi tutto... Sì, la Macarena, sì. Un passo indietro, un avanti, una mano alla cabeça. No, guarda, è una roba veramente ridicola. Sinceramente ridicola, cioè antidemocratica, da una parte ha giocata male, malissimo da chi voleva mettersi contro questa sorta di sistema, non sistema, nota vecchio Lotito e tutto il resto, giocata con un candidato debole e persa in partenza. Così. Mi dice soltanto perché tutte le componenti del calcio campo, intendo dire, quindi sì. allenatori, calciatori, arbitri e anche tifosi, erano esattamente per una soluzione opposta. Diversa. Come sempre. Ma com'è possibile che noi infatti quando abbiamo detto vabbè cerchiamo magari qualcuno che possa essere anche favorevole e ci possa dire anche perché stasera potremmo essere più contenti, appassionati di calcio, poi ci abbiamo pensato un attimo, no infatti, e abbiamo detto ma non c'è nessuno, dove lo trovi tra i commentatori? No, chiama, ti do il numero di Lotito se vuoi, no, vabbè, a parte ti do il numero di Macalli, ti do il numero di quelli lì, a parte loro, cioè perché c'è questa contrapposizione tra chi sta dentro in qualche modo, almeno le società, e chi invece i tifosi, gli allenatori, tutto quello che vuoi, ma soprattutto gli appassionati, i tifosi, i commentatori, che parte pochissimi credo. Conosci benissimo la risposta, perché naturalmente all'interno di questo non sistema c'è gente che ha degli spazi, si occupa degli spazi che non vuole assolutamente lasciare agli altri, e forte del fatto che c'è una norma che consentiva a Lega Pro e dilettanti di eleggere democraticamente il presidente della federazione, siamo in mano a dilettanti, Lega Pro e qualche altro pachiderma. Ma poco fa abbiamo sentito Salvini, segretario della Lega, per altre questioni, lui che avevano già difeso Tavecchio naturalmente quando era stato accusato di razzismo, perché per loro l'ipocrisia nel linguaggio, cioè non sono contro l'ipocrisia, sono per un linguaggio diretto, lo sai, quindi avevano accusato semmai chi lo criticava di essere ipocrita. Adesso però ha detto, colpo di scena, Tavecchio ha ragione, sarà lui che rinnoverà il mondo del calcio perché ci vogliono meno stranieri nelle squadre di calcio, e Tavecchio sarà quello che potrà fare questa riforma che tutti aspettano, cioè di tornare vivai, giovani. Ma io ti chiedo una cosa, ma secondo te la Lega è disposta a rinunciare agli stranieri quando ha preso almeno 5-6 stranieri? Gli ultimi 6 che ha preso sono tutti over 30, 32, 33, 34, 35, faccio i nomi, se vuoi, Alex, Marquez, lo stesso Diego Lopez, Evra, sono giocatori over, notevolmente over. E secondo te la Lega è disposta a tornare indietro perché non avendo una lira da poter spendere, le squadre di calcio sono disposte a subire dei diktat di questo tipo? Salvini, secondo me, diciamo che di calcio ne sa pochino, del calcio italiano, per usare un linguaggio meno diretto. Però per riguardo alla battuta infelice di come si chiama, di Tavecchio, devo dire che nessuno, io non credo che fosse da accusare di razzismo quanto di inadeguatezza. Sì. Cioè, lui stesso oggi ha letto le cose che ha detto, perché ha capito perfettamente, o anche ammesso, di non essere capace di parlare, e per un capo di un'istruzione direi che è un bel limite, non poter sapere neanche dialogare con gli altri e parlare un linguaggio assolutamente incomprensibile o ridicolo. Devo dire che oggi qualche suo collega poi lo ha imitato, perché abbiamo sentito altri presidenti parlare come Checco Zalone. Ma cosa ti aspetti adesso, dopo questa elezione di Tavecchio? Assolutamente non mi aspetto niente, ma non siete nulla. Cosa vuoi che succeda? Scusami, faranno qualche colpi di scena? Ma che colpi di scena? Ma è proprio quello che vogliono evitare, scusami. Hanno eletto lui per non avere colpi di scena, non mi aspetto nessun colpo di scena, non mi aspetto nessun cambiamento, 2 anni di altre magre, adesso cercheranno di convincere Conte a fare il CT da nazionale, Mancini te lo escludo al 100%, che Mancini possa accettare di andare a lavorare con lo Tito da vecchio, e quindi oppure faranno una soluzione sgradita e sgradevole, ma per la semplice ragione che oggi noi avevamo bisogno di freschezza, di qualcosa di nuovo, di qualcosa che potesse stimolare la gente ad andare di nuovo allo stadio, di guardare la partita nazionale. E invece siamo sempre lì. Beh, sì, insomma, una riforma complessiva, stadi, modo di gestire le squadre, settore giovanile, sì, sì. Con tutto il rispetto, no, all'età di mio padre, ma uno di 71 anni che è giovane, può cambiare? Cioè, uno che è arrivato dopo 15 anni di federazione può essere l'uomo del cambiamento? No, ti prego. No, cioè, ma certo, ma soprattutto si dice, ma perché dobbiamo prendercela con uno solo perché ha 70 anni, va bene? Perché dobbiamo prendercela con uno solo perché ha detto la frase razzista? Perché dobbiamo prendercela con uno che ha 4 condanne? Dico, vabbè, ma proprio questo dovevamo scegliere. È un'assurdità totale. No, sono, hai ragione, nel senso che noi siamo nella deregulation, cioè oggi tutto è ammesso. Viviamo in un paese in cui tutto è accettato. Cioè, tu hai 4 condanne, 5 condanne, sei... avere 71 anni non è una condanna è morire prima, non avere 71 anni. E io non ce l'avevo con il 71enne ce l'avevo col fatto che lui incarnasse un sistema sbagliato e fallito, cioè è un'azienda che ha fallito. Lui ha fatto parte per 15 anni di un'azienda fallita e oggi è il presidente di un'azienda fallita che dice, ci racconta che vogliono cambiare. Senti, ma invece dal punto di vista dell'allenatore e commissario tecnico, cosa pensi? Penso che non me ne frega assolutamente nulla, per dirla a Salvini, cioè no, perché a me interessava il cambiamento per il sabato e la domenica, capito? Mi interessava per vedere un calcio un pochino più fresco la domenica, a me di una volta ogni 2 anni, nazionale, mondiale, europei. Sì, è piacevole, interessante, dove ti pare, se vinciamo siamo tutti contenti, ma quello che conta del calcio è il weekend, quello che conta sono le 38 domeniche, quello che conta sono le giornate, sono la gente che va allo stadio, che paga per andare allo stadio, cioè la nazionale bene o male, certo, la questo è vero, questo è vero. Beh, per gli appassionati conta poi anche la nazionale, però è ovvio che è un tema più quasi più simbolico conta nella forse fase che... finale, perché sì, durante le qualificazioni non frega niente a nessuno. Sì, sì, questo è vero. Va bene, calma piatta, grazie Ivan Zazzaroni, buona serata, ciao, e buona estate. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Riprendiamo con gli ascoltatori e andiamo con Fulvia che ci chiama da Brescia. Buonasera. Buonasera, buonasera. Volevo solo fare un piccolo intervento, sì, per quel signore che era talmente agitato che spero peraltro stia bene. Piero, punto, Piero, perché... che urlava come un pazzo, sì. Assicuratevi della sua salute, vabbè. Solo a dire che purtroppo il problema dell'Italia riguardo gli stranieri è ben altro, nel senso, da noi vengono e gli creiamo un sacco di problemi. Ad esempio, io abito in quella famosa Francia Corta tanto nominata, tanto blasonata. Io ho visto 10 giorni fa una macchina di olandesi che cercava disperatamente un locale, una pizzeria dove mangiare, tutto chiuso. E non la trovava, tutto chiuso. No, tutto chiuso. Poi non vengono perché il classico straniero, la classica famiglia straniera è composta da mamma, papà, bambini e cane. E le assicuro che è un problema andare in giro con cane, non trovano, non si va in un albergo, non si va in un ristorante. E loro, la loro famiglia è così perché in qualsiasi posto in Europa, e non lo so, credo anche nell'estero, si può andare con un cane, vengono accettati i cani. Non da ultimo, settimana scorsa ho cercato di prenotare in Tirolo, non mi accettano il cane, giusto? E poi glielo dico io, cioè secondo lei c'è un tema di offerta alberghiera non attrezzata per quanto riguarda il tema degli animali, anche peraltro però sì. Soprattutto gli stranieri vanno in giro con perché loro cane. Agli stranieri stanno a cuore gli animali più che agli italiani, secondo lei? Ma no, non questo, però la classica famiglia straniera che viene in Italia... Ma com'è la classica famiglia straniera? È composta, perché non ho capito, da padre, madre, bambini e hanno quasi sempre ma dietro da tutte, loro cioè cane, da qualunque animale. Posto del mondo vengano sono fatti così, padre, madre, bambini ma e cane? Ma sicuro, guardi, mio marito lavora in Belgio e lei sì, vada in Belgio con un cane, va dappertutto, in qualsiasi ristorante, in qualsiasi albergo. Qui in Italia venire con un cane è impossibile. E poi, aggiungo... Poi vabbè, lascio a voi le discussioni sul cane o meno, ma io sono non una animalista come queste signore che stanno esagerando per questo povero picciolo, questo povero farmacista, credo più povero farmacista. Ma sto dicendo, io sono andata 2 anni fa in Francia col camper. Sì. Cioè, no, non le avrà sentite né di queste storie. Mi hanno aperto un camper, nel giro di un quarto d'ora l'ho lasciato su una strada non secondaria, una squadra principale, mi hanno aperto il camper, me l'hanno derubato, sono io stupidamente, perché tra loro ha lasciato le chiavi di casa, sono arrivata in casa e me l'ho dovuta veramente, cioè in Francia si sa che rubano, quindi questo signore non generalizzi tutto, sia in Francia che in Italia ci sono questi problemi. Piero era un po', il generalizzatore, poi, Piero il appena, generalizzatore, va bene, Piero, grazie. Ero un po' agitato, grazie, ma poi io sono appena tornata dalla Croazia. Ma lei viaggia un sacco, Fulvia, beata lei. Mi piace, sì. No, cioè, ci sono questi venditori, ma basta dire no, grazie. Eppure in Croazia ci sono i tedeschi, ci sono gli olandesi, c'è pieno. Va bene, ma ci sono i turisti anche in Italia, ragione lei, da questo punto di vista non credo che gli abusivi siano un grosso problema per i turisti stranieri. Grazie, buona serata. Paolo da Pisa. Paola, mi scusi. Prego, Paola. Femmina, animalista, convinta. Sì. Allora, una preghiera per il piccione, prima di tutto, perché io voglio dire, quel signore, se gli entra una zanzara, cosa fa? Usa il napalm? Se gli entra un cane randagio in farmacia, cosa fa? Gli spara? Cioè, voglio dire, i piccioni si sa che non sono animali particolarmente puliti, eccetera, però qua si configura tranquillamente il reato di maltrattamento animale, perché questo signore non aveva nessunissimo diritto di... Ma cosa avrebbe dovuto? Io non c'è un film della storia, però cosa avrebbe dovuto fare? Cioè, entra un piccione in farmacia con la gente lì, magari ti comincia a svolazzare tra le medicine, un animale sporco che porta male, che cosa fa? Cerca di scacciarlo, questo sì. Immagino dopo schizzi di sangue e piume avrà migliorato. No, ma cercherà di scacciarlo, questo è ammesso, sì, o no? Prova a scacciarlo, chiama i vigili, chiama un'associazione, è a Milano, ci sarà qualcuno. Chiama un'associazione, nel frattempo chiude la farmacia, chiama un'associazione. Ma ecco, ma allora io sono ora qui per la strada, sì. C'è pieno di SUV inquinanti in questa strada dove sono adesso, che facciamo? Spariamo anche a loro? Cioè, cerchiamo anche un attimino di dare dei termini alla questione. Questo signore ha fatto una cosa assurda, completamente. Ma può darsi assurda. Che abbia esagerato nella legittima difesa, ma sì. Andare davanti al suo negozio oppure scrivere su Facebook che se muore non andremo al tuo funerale perché ci fai schifo, non è un po' esagerato? Allora, sì, assolutamente. E infatti io, pur essendo animalista, non auguro la morte di nessuno. Meno male. Auguro mi auguro però che qualcuno... No, sì, figuriamoci. È un animale anche lui, Maurizio. Ora mi faccia fare una battuta. Sì, no, però certo. Non augurerei mai assolutamente la morte di questa persona, però se qualcuno, poi magari tipo la Lipo, le associazioni del genere, gli fa una bella denuncia per maltrattamento di animali, sono ben contenta. Però non era questo l'argomento per cui volevo chiamare, visto che stasera la faccenda verte molto sugli animali, sì. Volevo raccontare l'ultima perla della città di Pisa, una città che non è nota in tutta Italia per il rispetto degli animali e per la considerazione. Una città dove lasciamo perdere altri aspetti, per esempio abbiamo le carrozzelle con i cavalli che portano turisti grassi sotto il sole, tuttora ci sono 32 gradi e ci sono i cavalli che arrancano nell'asfalto. Che cosa è successo? Per lei bisognerebbe togliere anche questo piacere, diciamo, dei turisti di andare in carrozzella. No, io voglio dire che solo quelli magri bisognerebbe far salire. Ragione. Sì, io voglio dire che va regolamentato in qualche modo. L'assessore attuale aveva detto, prima di essere eletto, che insomma avrebbe posto un limite a questa cosa. Non è neanche giusto però che a 35 gradi, come ci sono oggi tranquillamente, su Lungarni, questi cavalli arranchino, tanto più che non hanno un riparo, d'accordo? Non hanno un vero e proprio riparo dove rigenerarsi, quindi insomma, ci vorrebbe un minimo di regolamentazione, ma non è neanche... Ma io credo che, chi è il padrone del cavallo e della carrozza sarà il primo che è interessato a far sopravvivere il cavallo dignitosamente, no? E se è il suo modo di lavorare, il suo mezzo di lavoro. Bisogna mettersi d'accordo sul dignitosamente. Secondo me far lavorare, cioè, non credo che io, che ho una carrozza, voglio averci il cavallo dissanguato, cioè sfinito, che oltretutto non tirerà più la carrozza, mi muore il cavallo, ma non credo proprio. Sì, però siccome non si può contare sull'intelligenza delle persone, purtroppo. E su cosa dobbiamo contare allora? Dobbiamo contare su delle regole certe, su delle regole che danno anche una forma di rispetto per gli animali. Ma non era neanche questo il tema, lei mi porta fuori strada. Velocemente, dunque, la tanto discussa riunione degli scout della GESCI nel nostro parco ha lasciato una perla, ci hanno lasciato un regalo, ci hanno lasciato tre dromedari. Questi dromedari vengono da non so dove e non vanno bene neanche i dromedari. Per quanto mi riguarda no, e adesso le dico perché. No, non adesso, non adesso, non adesso, perché dobbiamo chiudere, c'è il giornale radio. Poi dopo ce lo spiega perché non vanno bene i tre dromedari regalati dagli scout al parco di San Rossore. Doveva essere un premio, una compensazione per la loro presenza, invece non vanno bene. Giornale radio, a dopo. Si può fare! L'attualità anche d'estate. E qui comando io, e questa è casa mia. Ogni dì voglio sapere, voglio sapere, e qui comando io, e questa è casa mia. Ogni dì voglio sapere chi viene, chi va. La parola chiave per l'Italia dei prossimi anni non può che essere coraggio. Se qualcuno oggi in Italia immagina che la gioventù, i nuovi giovani ragazzi siano dei pigri, sdraiati, bamboccioni, voi siete la risposta che questo qualcuno sta sbagliando tutto. Finché la luna la cambia i colori. Finalmente dei fatti concreti che tutti i cittadini italiani si aspettavano. Da una parte l'avvio delle riforme e dall'altra questa bella notizia di Alitalia. Adesso dobbiamo andare avanti, abbiamo a che fare con il fattore tempo, la maggioranza, il nuovo centrodestra, il Partito Democratico è convinta che l'unica strada davanti è cambiare con coraggio e concretamente l'Italia. Quando la luna... Ma perché dice siete partiti con Giuliana Cinquetti e qui comando io e questa è casa mia? Ma certo, per le frasi di Matteo Renzi al Financial Times sulle riforme, decido io, non la Troica né la Banca Centrale Europea, farò io le riforme perché l'Italia non ha bisogno di qualcuno che le spieghi cosa fare, così ha detto Renzi, che ha un po' puntato i piedi prima della pausa estiva su questa questione che si vocifera manovra aggiuntiva, una nuova manovra economica, Italia sorvegliato speciale, dopo le parole di Draghi a proposito delle riforme ha un po' criticato insomma l'Italia. 800 24 00 24, noi questa sera però vogliamo i vostri interventi anche per raccontarci che cosa ha messo a repentaglio il vostro agosto, gli imprevisti, cose che accadono solo ad agosto, come per esempio il farmacista di Milano che per avere scacciato e ucciso un piccione nella sua farmacia si è ritrovato gli animalisti davanti che lo contestavano e che qualcuno auspicava addirittura la sua morte. Oppure, come ci ha chiamato un altro ascoltatore, che parlava dell'avvistamento di un coccodrillo nel lago d'Orta. Poi c'era Paola che parlava sempre a proposito di animali, in tema di animali, da Pisa, del perché non si devono utilizzare i cavalli per le carrozze, e ci doveva spiegare anche la questione dei dromedari regalati dagli scout. No, sono cose vere, cioè state pensando che siamo impazziti tutti, sono tutte cose vere, i dromedari regalati dagli scout al parco di San Rossore. Lei però la sentiamo tra poco. Adesso invece risentiamo qualche Tavecchio, qualche Carlo Tavecchio, eletto poco fa presidente della FIGC, lo sapete. Qua per esempio si paragonava all'assassinio di Kennedy. L'assassinio di John Kennedy non ha subito quello che ha subito il sottoscritto, ma questo rientra nelle umane cose in un paese che sicuramente ha bisogno di non avere obiettivi che sono di non accoglienza. In questo momento i poteri forti sono contro di me. I miei poteri forti sono il calcio di base, il mondo dei giovani e il mondo del volontariato. I poteri forti sono contro di me, a parte che sembra una frase di Star Trek o di Guerre Stellari, anzi meglio, ma i poteri forti sono contro di me, di uno che è stato eletto da tutto il mondo del calcio, tutti Serie A, B, C, che non c'è più, eccetera eccetera, fa veramente ridere. Tant'è, sentiamo invece Tavecchio di oggi che dice, in qualche modo chiede un po' scusa nuovamente, ma l'ha fatto mille volte, questo gli va dato atto, se no poi dicono che facciamo il linciaggio, e dice spero di non aver offeso nessuno. È fisiologico che in una competizione elettorale i toni si inaspriscono e magari si giunga anche a dire cose che non si sarebbero mai dette in altre occasioni. Se ho contribuito anch'io, involontariamente, a questo inasprimento dei toni, me ne scuso. Spero di non aver offeso nessuno. Beach on the beach, sotto solo la pelle gruccia, sotto la luna ancora di più. si può star. Oh babe. Beach on the beach, femmine e uomini vanno a caccia, gli occhi neri e gli occhi blu. Quante signorine very nice fanno uscire pazzo tutti i boys. Ma state qua, you know, per farci innamorare ad ogni età. You know, frenare un poco e poi lasciarsi andare. You know, in fondo sai che quando torni back alla città tutto finirà. Mannaggia, ma e questa sera il nostro inviato sotto l'ombrellone è il sindaco della Maddalena, Angelo Comiti. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, intanto come va? Per esempio, cominciamo dal tempo, visto che ci sono previsioni meteorologiche sbagliate che fanno impazzire, e anche la mancanza del sole che fa impazzire i turisti. Come va oggi? Beh, oggi va benissimo, finalmente, dopo un periodo molto discutibile dal punto di vista meteorologico. Molto discutibile non è male, sì, cioè mancato un po' il sole. Abbiamo avuto un luglio, insomma. Un luglio un po' strano. Molto strano, un tempo brutto, vento, pioggia. Però ogni tanto magari anche quella brezzolina di vento. Io sono stato in Sardegna, c'era un po' di vento, però aiutava. Ma il maestrale a 35 nodi è un pochino più fastidioso, ecco, diciamo. No, il maestrale l'ho imparato anch'io. Quello ha avuto a luglio. Oggi, insomma, in questi giorni c'è un tempo splendido, si sta veramente molto bene, compresa la brezzolina. E la stagione dal punto di vista, diciamo, dell'afflusso dei turisti com'è? Ma diciamo è una stagione un po' in difficoltà, è iniziata tardi. Ora effettivamente c'è molta gente, perché il mese di agosto è il mese di agosto. C'è il mese di punta, il mese di punta, però insomma. Ma gli alberghi sono pieni? Ci sono gli alberghi da voi, residence? Dove va la gente? Noi abbiamo una serie di alberghi non grandissimi, abbiamo dei residence, abbiamo soprattutto seconde case, ecco. Quindi diciamo che le cose in questi giorni stanno andando abbastanza bene. Ecco, sta tutto prendendo il verso giusto, quando a un certo punto abbiamo letto sull'Unione Sarda, ma come? Battaglia contro la movida alla Maddalena. I residenti e i turisti che vivono nelle case del centro storico hanno deciso di dare battaglia alla vita notturna. Allora, adesso le chiederemo di spiegarci un po' cosa sta succedendo, notizie anche di questo comitato. Però la prima cosa che abbiamo pensato, stiamo parlando di un luogo di vacanza, di villeggiatura. È normale che ci sia un po' di movimento la notte. Cosa si aspettavano questi abitanti della Maddalena? Cioè, preferiscono rimanere senza turisti? Non credo, sindaco. No, non credo neanche io. Guardi, chi le com'è parla possibile che ci sia una cosa del genere? È un abitante del centro storico. Io abito a Cala Gavetta, quindi in pieno centro storico. E chiaramente d'estate, soprattutto nel mese di agosto, niente, faccio buon viso a cattiva sorte. C'è un po' di movimento, c'è un po' di casino, cosa succede? Viva Dio, meno male. Viva Dio, bravo. Ecco, perché voglio dire, insomma, noi abbiamo un programma estivo abbastanza nutrito. Ci sono manifestazioni, concerti, cosa c'è? Ad esempio c'era il carnevale estivo, dove c'erano veramente migliaia di persone in piazza, figuranti. Ma voglio dire, ma fino a che ora? Fino a che ora questo? Ma signor, generalmente, guardi, sono robe che si concludono intorno all'una, ecco. Io anche. Quindi ci si diverte a venire alla Maddalena, organizzate un sacco di cose. Sicuramente, alcune, insomma, anche di grande spessore, ecco, tipo per la esempio? Valigia dell'attore. La? Un festival, la valigia dell'attore, un festival cinematografico che noi dedichiamo ogni anno a Gian Maria Volonté, che era un grande amante dell'isola, appunto qui sulla nostra isola. Poi quest'anno, ecco, cadeva il ventennale della sua morte, quindi... Vabbè, però ci dia notizie di questo comitato antimovida. Veramente ci sono degli abitanti della Maddalena che si sono lamentati per un po' di schiamazzi notturni? Certo. E chi sono? Tante persone, anche miei concittadini, che ritornano qui alla Maddalena da altri luoghi dove vivono, in Sardegna o altrove, soprattutto nel mese di agosto. Quindi non sono nemmeno persone che ci vivono tutto l'anno, ci vivono solo ad agosto? Una percentuale minima rispetto ai firmatari di quel documento che io rispetto perché l'ho letto con attenzione, ci sono scritte anche delle cose insomma pesanti, io faccio fatica a pensare che ci siano dei ragazzini che poi tengono in ostaggio quartieri interi come c'è scritto, perché poi minacciano rappresaglie. C'è anche qualche piccolo episodio di questo tipo, ma guardi, intanto non sono solo come sindaco a dover fronteggiare nell'eventualità cose di questo tipo, ma la grande disgrazia dei centri storici italiani in genere è che sono spopolati per buona parte dell'anno, quindi ci sono alcune nicchie all'interno delle quali poi i ragazzini eccetera albergano preferibilmente rispetto ad altre, e sono le viuzze che sono intorno al centro storico. Ma guardi, non c'è niente qui, insomma, a leggere quella lettera dove fra l'altro in indirizzo ci manca il presidente Obama, Papa l'hanno Francesco, scritto a tutti, e il commissario dell'ONU, e ci sono tutti, però ecco, mi sembra che in quella lettera si dia un'impressione che questa città sia in preda o perlomeno sotto scacco di bande giovanili, di ubriaconi, drogati, eccetera, eccetera. Guardi, mi creda, sì, ci dica non lei. È niente di questo tipo. Ci sono degli episodi che andrebbero monitorati meglio, ma qui entriamo nel campo delle possibilità che i comuni hanno, come lei sa, fra patti di stabilità. Ma lei cosa farà? Farà? Prenderà qualche misura, qualche ordinanza anche lei? Oppure terrà duro e dirà no, viva il turismo, viva i turisti, viva le feste, la sera, l'estate, e lasciamo perdere il comitato? No, assolutamente, lasciamo perdere il comitato no. Io le ripeto, ho delle ordinanze già promulgate che sono molto puntuali, ma è inutile che il sindaco faccia delle ordinanze se poi non ha la gente che le fa rispettare. Io ho 9 vigili urbani qua. Siamo tornati alla solita questione che non ci avete i vigili. Hai capito? Perché abbiamo il blocco delle assunzioni, con il patto di stabilità non possiamo assumere. Quest'anno non ho neanche assunto i vigili stagionali ancora. E mi creda, alla Maddalena, perché lei sa, è diciamo l'isola maggiore di una. Quanti abitanti fa? Facciamo 12.000 abitanti. E ci avete 9 vigili urbani? Abbiamo 9 vigili urbani in servizio in questo momento, ma le immagini devono controllare anche Caprera, quindi ho molti problemi sulle ordinanze antincendio, su tutta una serie di questioni, e poi noi insomma raddoppiamo almeno la popolazione se le cose vanno bene in questo periodo. Quindi però scusi, adesso non capisco, un comune come il suo, che col turismo credo nel mese di giugno, luglio, agosto dovrebbe tirar su qualcosa tra, non lo so, tasse di un certo tipo o comunque semplicemente con l'indotto turistico, le case che affittate, le case che vendete, cioè è possibile che non avete i soldi per no, ma non è un problema di soldi, guardi. Non è un problema economico, è un problema di impossibilità dal punto di vista normativo, perché questa storia del patto di stabilità, che sembra, come posso dire, un enunciato privo di qualsiasi tipo di sostanza. Cioè, anche se lei ce l'ha i soldi non li può spendere. Questo. Noi ne abbiamo soldi, ma ne abbiamo anche tanti, e che non li possiamo spendere, perché siamo praticamente dentro il meccanismo del patto di stabilità. Vabbè, quindi insomma non ci sono i soldi, non ci sono i soldi nemmeno per impedire alla gente di divertirsi la sera, quindi ci sta tranquillizzando, no, perché c'eravamo preoccupati, l'idea di andare in vacanza in un bel posto e non poter, come dire, cioè stare fuori tranquillamente perché c'era l'ordinanza, ci impensieriva, invece stiamo tranquilli. Guardi, ci sono, le ripeto, delle cose che possono sicuramente essere migliorate. Io terrò presente. No, ma lei non tocchi nulla, lasci così, guardi, non migliori nulla, perché no, adesso sto scherzando, sto parlando dal punto di vista dei turisti, quindi poi se ci sono dei problemi per chi ci abita, è giusto, lei il sindaco deve sentire tutti. Grazie, buona estate anche al sindaco della Maddalena, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Era un po' sconsolato, era un po' scolato, come dire, ma guarda te, se mi tocca combattere ad agosto, cioè c'è stato il brutto tempo, pioveva, là il vento, il patto di stabilità, non ci abbiamo mai i vigili, e questi qui che mi vengono a dire che c'è troppo casino la sera alla Maddalena. In effetti, ha tutta la nostra solidarietà il sindaco. Borsa! Si può fare l'attualità anche d'estate. 800 24 00 24. Riprendiamo, l'avevamo lasciata prima del giornale radio, Paola da Pisa che ci stava spiegando come e perché questo regalo, insomma, dei dromedari al parco di San Rossore non va giù, non va giù, non piace. Paola. Salve, di nuovo. Eccola. Beh, non va, è una cosa innanzitutto secondo me ha un sapore veramente provinciale, perché ormai è riconosciuto in giro per il mondo che è opportuno stabilire con gli animali un rapporto un po' diverso, cioè, mi chiedo perché non si riesce a fare una riflessione in tal senso. Beh, io sono un animalista, ho fatto determinate scelte, però non pretendo che gli altri le condividano appieno. Mi chiedo solo come è possibile portare le persone a una parvenza di ragionamento, cioè questi sono animali che non hanno nessuna relazione con il nostro paese, non ho idea della loro provenienza, potrebbero venire tranquillamente dall'Italia e quindi magari essere già inseriti qui. Comunque il giornale locale riporta che sono già perfettamente domati, il che vuol dire che prima non erano domati e che è stato fatto qualcosa per domarli. Beh, però mi scusi, ma lei fa il processo alle intenzioni, Paola? No, io non faccio il processo alle intenzioni. Non sa neanche se i dromedari ci possono stare nel parco, però non le va bene a prescindere. Ma il fatto che ci possano stare a livello legale... No, ma a livello anche di animale, insomma. Lei stessa ha detto non sono neanche sicura se e però scusi Maurizio, sì. Però allora, prima di tutto, questi animali saranno utilizzati per il trasporto dei turisti, cioè i turisti useranno il dromedario per farsi i giretti nel parco di San Rossore. Io va la bene, però Paola, mi faccio finire per cortesia, sì. E poi il maschio è sterilizzato, buon per lui. Le femmine saranno fecondate artificialmente dal nostro dipartimento di veterinaria, non lo so, dando origine quindi a altri piccoli schiavi. Cioè, cosa vogliamo a Pisa? Cosa vogliono al parco di San Rossore? Piccoli schiavi, addirittura adesso degli animali che stanno in un parco, in una riserva naturale. Ma lo dice lei, Paola, ma che prigionieri? Sono animali che stanno in una riserva naturale. Il fatto che siano stati, come dice lei, sterilizzati, ma quanti padroni di cani e di gatti lo fanno come se fosse una cosa normale? Animalisti come lei, ma si domandi questo, che sterilizzano il gatto? Perché gli sembra la cosa migliore? Io sono una volontaria animalista, sterilizzo i gatti. Ci viene lei a raccattare le cucciolate? E allora questo vale anche per i dromedari del parco di San Rossore, è la stessa cosa identica, non è che si può criticare quello perché lo fa il parco di San Rossore e non criticare quello che si fa in casa propria. Ho detto che sono ben contenta che il maschio sia sterilizzato, allora, se le femmine saranno... Allora una l'hanno imbroccata, sì. Le femmine saranno fecondate artificialmente, dovranno produrre degli altri dromedarini che staranno nel parco di San Rossore, ma cos'è questo? Cioè questa qui è una cosa retrograda. Non lo so, guardi, non deve essere bello nemmeno essere sterilizzati come è successo al suo gatto, non credo che sia una cosa molto, molto bella, però lei lo ha fatto perché non vuole raccogliere, lo ha detto lei, quello che ci sarebbe da raccogliere. E allora, però scusi, se la mettiamo su questo piano, ha capito Paola? Paola? Sì, dica, sono qua. Non è che quello che fa lei è giusto e quello che fanno gli altri è sbagliato. Infatti io ho detto che io auspicherei una riflessione sulle cose e ho anticipato che io ho fatto delle scelte e non pretendo assolutamente di imporle agli altri, ok? Io sono vegana, faccio volontariato animalista, ho determinate convinzioni. E sterilizza il gatto. Quello che io mi chiedo è... Sì. Poniamoci questa domanda, è giusto che questi dromedari stiano al parco di San Rossore? Allora io pongo un'altra domanda, è giusto che il suo gatto sia stato sterilizzato? È giusto nelle condizioni in cui viviamo adesso? Ecco, allora si è risposta anche lei da sola sul dromedario al parco. Ci sono infinite malattie a trasmissione sessuale. Ma certo, ma è ovvio, ma lei fa benissimo a sterilizzare il gatto, fa benissimo e fanno benissimo al parco di San Rossore a tenersi i dromedari e farci andare i bambini sopra. Grazie, buona serata Paola. 800 24 00 24, però evitiamo di fare gli animalisti che chiamano, perché non c'è nessun attacco agli animali da parte nostra e noi siamo partiti da due o tre notizie. Poi fra l'altro i dromedari li ha tirati fuori Paola, noi proprio di questo non volevamo proprio parlare. Va bene, andiamo con Riccardo che ci chiama da Bergamo. Pronto? Prego. Allora, mi rivolevo collegare per quanto riguarda quello che ha detto Alfano oggi in televisione. Sì. quello che dice è giusto in effetti, però la legalità va rispettata ed è giusto, però il fatto che in Italia si vede benissimo che tutte le leggi, lo sanno benissimo anche gli extracomunitari, non vengono mai rispettate, e quindi questa qui è un'illegalità diffusa. Chiunque viene sul territorio italiano sa bene che cosa qui in Italia le leggi sono diverse rispetto a quello che accade in Francia, come ha detto giustamente quel signore di Mentone, oppure se va in Svizzera, oppure va anche in Germania, lo vede che non c'è, e tutta questa marea di gente, poveretta, che dispiace anche, ma non te fa far sobornismo, sono sulle spiagge e passano ogni 10 minuti, attenzione, sto parlando di una spiaggia di un hotel 5 stelle lusso in Puglia, ogni 10 minuti passano, questa spiaggia è piena di turisti stranieri, seccatissimi, dicono che non possono farci niente, nemmeno quelli chiaramente che sono lì, i bagnini eccetera, perché è un continuo, è un'invasione continua, sì. E continuano a proporre anche se tu non vuoi, quindi non è vero che i turisti sono anche sono abituati dove sono nei loro stati, perché boh, non lo so, sarò io che sono francesi, particolarmente distratto, ma non almeno nelle situazioni in cui mi sono trovato io, basta dire di no, ne passano molti, certo, è vero, basta dire di no, ma poi ne dopo passano 10 molti. Minuti tornano ancora, ma altro, sì, chiaramente, però poi non danno fastidio, dicono di no e vanno via, insomma, onestamente. Certo, certo che vanno via, ma infatti lo sto dicendo che ti stanno importunando chissà come, però ogni 10 minuti passa, e quello che ha detto il signor Mentone non accade, e ha ragione in queste cose, quando dice a Pianizza se va a Cannes, non accadono queste cose. In Italia accadono tante cose che negli altri paesi non accadono. Un certo tipo di turismo si secca. Ma comunque riguardo poi l'illegalità, mi ha fatto ridere anche l'ascoltatore prima che parlava riguardo un paese, come si fa a parlare di chiaramente di legalità in un paese, come dice Alfano, che fa questi spot perché sono propagandistici, perché sappiamo bene che poi non vengono mai realizzati poi nel lungo periodo, che dice, questo vostro ascoltatore dice, come si fa a parlare di legalità, dice che in un paese... E chiaramente dove si è condannati con 4 capi di imputazione, mi sembra, e dice, e beh, questo in quegli anni per evasione, in quegli anni ci sta. Cioè, ma se questa è l'Italia, cioè, basta, è finito tutto. Ha ragione. Tutto normale. In quegli anni ci stava, capitava di essere condannati per reati fiscali, sai? In effetti, chi non ha più di 60 anni non ha almeno un paio di condanne per reati fiscali. Era un po' questo il concetto. No, io conosco tantissima gente che non ce l'ha e che potevano fare i presidenti della Federcalcio, tra l'altro. Grazie. Roberta da Rimini, buonasera. Ascolti, io vi avevo chiamato perché ho sentito un po' la vostra trasmissione, poi sto lavorando quindi devo ogni tanto abbandonare, mi dispiace la radio perché siete bravissimi, però per farvi un appunto, non è vero che diciamo i classici WCumprar extracomunitari non danno fastidio in spiaggia, danno fastidio a come? Sì. Perché sono diventati abbastanza pesanti. Io non ho detto che per me io la mia esperienza è che basta dire di no, se ne vanno e no, non mi arrecano un grosso problema. Purtroppo ultimamente non è così. Si siedono sullo sdraio. Sull'ombrellone stava per dire. No, sì, esatto. Questo sarebbe un bel problema. Le chiedo scusa, ma ho lavorato fino adesso. Si siedono sulla sdraia. Sullo sdraio le infilano la collanina al collo, il braccialettino, sono insistenti, arroganti, maleducati. No, che sono insistenti è vero, insistono un po', è vero, a volte insistono. Specialmente quando ci sono le nonne con i bambini, sono abbastanza arroganti, perché io ho visto una cena domenica, sono abbastanza caffoncelli, sinceramente. E poi soprattutto una cosa, si parla tanto di evasione fiscale, quella, scusi, non è evasione fiscale? Il governo non prende né IVA, non prende né tasse. Ma e quindi la direttiva... è una concorrenza sleale che viene fatta nei confronti dei negozi. Ma la direttiva... la direttiva di Alfano, quindi... Che loro comprano una cosa. Ascolti un attimo. La vendono a 1,20€ e ci hanno guadagnato. Abbiamo capito. La direttiva di Alfano, Roberta, è quella lì che ha preso adesso proprio contro l'abusivismo. Quindi va nella direzione giusta. Sono 20 anni che i commercianti in Riviera la stanno aspettando. Sì. Però deve essere anche applicata, perché come solito in Italia si fanno le leggi e poi qui a Rimini non vengono applicate, di conseguenza quando un prefetto di Ravenna dice che non danno fastidio, lei ha detto tutto. Sì. Questa è, diciamo, un po' la particolarità italiana, dove ci sono decisioni e decisioni e decisioni, ognuno poi fa un po' come gli pare. Questo è vero. Applicate dopo, perché sennò ci facciamo ridere dagli stranieri. Va bene, grazie, buona serata, grazie. Buonasera. Arrivederci. Andiamo con chi andiamo? Con Guglielmo che ci chiama da Modena. Buonasera. Prego. Io ascoltavo l'ascoltatrice che parlava di animalista, non c'è neanche mare, perché dice che lei non comunque non mette in discussione quello che fanno gli altri, non vuole imporre, perché spesso ci ritroviamo a avere a che fare come con animalisti tipo la brambilla, che limitano le libertà altrui perché vogliono ad esempio proibire la caccia, che sarebbe l'unico stato al mondo in cui avverrebbe una cosa del genere, e una come la brambilla si professa anche liberale. Mm-hmm. Però a parte quello, lei è cacciatore? Io sono cacciatore, la mia famiglia, io ho 27 anni, la mia famiglia va a caccia da 4 generazioni. Sì, sì. Però io non ci vado regolarmente, ci vado una qualche mattina, però a quello cui sparo poi me lo mangio. Cosa spara? Ai migratori. Ai migrati, stava per dire agli immigrati, vabbè, adesso ci poteva stare, perché la suggestione della serata è questa, insomma, c'è l'ordinanza anti-TV Cumpra. Caccia ai migratori? Sì, sono le anatre, in un lago si spara le anatre. Buona l'anatra poi, Sì, l'anatra è buona, sì. Poi agli animali che corrono non sparo, tipo le lepre così, ai... Solo a quelli che volano. Perché? Per un codice deontologico, perché è più difficile prenderli. No. Mi piacciono molto come animali, i cervi, anche le lepre, così non mi sento di spararci. Sì. Va bene. Finché sono uccelli non sento questa cosa. Però quello che volevo dire riguardo gli animalisti è che loro spesso hanno una difesa a spada tratta di alcune specie che causano dei danni. Sì. E noi abbiamo avuto è vero, per loro no, è vero quello che ha detto prima, cioè gli animalisti è vero che per difendere gli animali passerebbero sopra qualunque cosa, siccome per loro è un principio così supremo che passerebbero sopra tutto, compreso anche gli altri esseri umani. Nel caso del farmacista di Milano qualcuno addirittura lo voleva morto perché aveva ucciso un piccione, quindi dente per dente, cioè una cosa selvaggia. Non è più solo un punto di vista, ragione. Hanno lei. Più diritti gli animali delle persone, secondo loro. Qua abbiamo avuto l'alluvione, che è stato dimostrato che è stata causata dall'incuria dell'uomo, perché non ha fatto la manutenzione. Ma i buchi negli argini li hanno fatti gli animali selvatici. O quegli animali selvatici si abbattono oppure provocano dei danni inimmaginabili. Mm-hmm. Adesso qua abbiamo il problema delle nutrie, delle volpi, dei tassi. Ah, le nutrie mi dicono che sono un bel problema in giro per l'Italia, Ne avete molte? Sì, c'è morta anche della gente per colpa delle nutrie, perché fanno dei buchi negli argini franano. Sì. E qua adesso date un po' la caccia alle nutrie, visto che così fate qualcosa di utile ancora di più, no Andrea? Allora, sono dovuti passare mi rendo conto che non sia molto allettante, però sono dovuti passare 20 anni per avere la possibilità di eradicare la nutria, perché prima era specie protetta, doveva essere una caccia in deroga, perché ci sono questi animalisti qua. E poi un'altra cosa che invece... Ma scusi, adesso si può cacciare la nutria? Sembra che che sia stato inserito, che comunque sia finito l'iter per via che si possa cacciare e eradicare completamente. Prima era una caccia in deroga, cioè potevano spararci sulle persone con l'autorizzazione a coadiuvare le specie dannose. Ho capito. Va bene, grazie mille Andrea da Brescia, buona serata. Andiamo con... Era Guglielmo da Modena, ho sbagliato, ecco, Andrea da Brescia lo chiamiamo adesso. Andrea? Buonasera. Sarò rapido in realtà, perché ascoltando l'intervento dell'animalista pensavo proprio che questi sono i figli della società dell'opulenza, perché con il discorso che faceva lei, come appunto il gatto va bene sterilizzarlo, no? Sì. Allora per esempio in Africa, per evitare la fame, che la gente muore di fame, se bisogna essere conseguenti date le circostanze, sterilizziamo anche loro. Che è un po' terribile, però certo, è logico perché, rispetto a quello che è stato detto, sì. E certo, caspita. No, in realtà io penso sempre che questi in Africa gli animalisti, permesso che io adoro gli animali, è un atto d'amore che faccio verso gli animali e non averne, perché non sarei in grado di tenerli, invece quelli che magari poi abbandonano i cani, verissimo, dovrebbero fare la fine dei cani abbandonati, cioè li abbandonerei sull'autostrada con le macchine che li schivano, se ci riescono. Ecco, perché vi ricordate per esempio il caso della carica di 101, che arrivò un'alluvione di dalmati che poi magari tenuti in appartamenti dove non potevano e poi venivano abbandonati. Ma a parte questo, mi sembra molto spesso appunto figli della società dell'opulenza. C'è un detto veneto che credo che reciti più o meno così. Come? Ce lo dica in veneto. Che dice una cosa del tipo tante monete, tante monade. Cioè tanta moneta, tanta stupidaggine. E questo lei lo applica alla questione degli animalisti, cioè figli della società opulenta, stupidaggini figlie della società dell'opulenza. Me la ridice in Veneto? Tante monete? Perché suoni tipo tante monete e tante monade. Va bene, grazie Andrea, buona serata anche a lei. Andiamo con... Facciamo una pausa, torniamo tra pochissimo. Le grandi navi, mattina e sera, inverno, estate e primavera, e mostri vaganti per il canale passano davanti al palazzo ducale. Son 10 piani che muovono le onde, la polizia li protegge con ronde di motoscafi veloci a difesa delle crociere con la gente appesa che giù si sporge. Luigi Lazzaro, presidente di Lega Ambiente Veneto, buonasera. Buonasera, buonasera. La conosceva questa canzone? Le piace? Molto, molto carina, no, non la conoscevo comunque. L'avrete capito, è una canzone nata proprio per la questione delle grandi navi, contro il passaggio delle grandi navi nella laguna di Venezia. Pensavamo che si fosse un po' risolta la questione con l'annuncio dato venerdì dal governo, abbiamo trovato una soluzione. Scaveremo un altro canale e quindi mai più davanti a San Marco. Poi però invece abbiamo letto sui giornali che c'è una parte dei cittadini, tra cui anche l'associazione ambientalista, che dice no, non va bene per niente, soluzione trovata per niente. Che succede? Succede che è il famoso annuncio alla rovescia, nel senso che certo questa decisione parla di spostamento delle grandi navi dal canale della Giudecca, dal bacino di San Marco, ma non dal porto attuale, quindi non dal cuore della città. E quindi è una soluzione un po', come dire, un tampone secondo noi, che ovviamente contestiamo per il danno all'ecosistema lagunare che uno scavo di un nuovo canale potrebbe procurare, e suggerendo tra l'altro insomma altre alternative valide percorribili. Perché il problema rimane il medesimo, comunque continuano a entrare le navi nel cuore della città, permangono i motivi, come dire, di protesta legati alla salute, quindi alle emissioni in porto delle navi, alla sicurezza per la laguna, voglio ricordare insomma incidenti gravi che purtroppo con l'errore umano possono sempre capitare. Senta, però allora chiariamo due aspetti, adesso poi ci dirà quali sono le vostre proposte alternative e anche come mai non sono state prese in considerazione, ma chiariamo un punto, il fatto è il passaggio delle grandi navi lì da Venezia, cioè è un valore per la città, secondo voi può essere un valore? Un valore legato ovviamente al turismo, al fatto della visibilità, non so, anche eventualmente al fatto che queste compagnie lascino qualche obolo alla città e quindi contribuiscono all'arricchimento di Venezia, oppure a voi delle grandi navi non ne frega proprio un tubo? No, allora sicuramente sono una ricchezza le presenze di turisti, di visitatori per una città che ha tanto da raccontare di se stessa, e quindi ci mancherebbe altro che siamo contrari all'arrivo di persone che vogliono visitare con le dovute cautele una città che è a rischio per tanti svariati motivi che insomma adesso magari non stiamo qui ad elencare, dalla pressione turistica alla subsidenza, alle alte maree, alle problematiche legate alla salvaguardia. Ma lei sta andando, sta partendo per le vacanze in stazione, mi pare di capire. Sto tornando a Venezia. Sì. No, ci scusiamo con gli ascoltatori, ci sono gli annunci, non possiamo eliminare, lei deve salire su un treno, quindi. Senta, quindi allora il punto è questo, voi non siete giudizialmente contrari, dite troviamo un'altra soluzione diversa, perché allora la soluzione, lo dico per gli ascoltatori che magari non hanno approfondito, che è stata studiata e di cui si parla adesso, per la quale il governo si sta spendendo, che era quella poi già in pista da un po' di tempo, è fare scavare in qualche modo nel fondale, un'opera che secondo alcuni costerà 100 milioni di euro, poco di più, un canale, un solco che consenta a queste grandi navi che pescano sott'acqua per molti e molti metri di passare dalla bocca di Malamocco, credo che si chiami, per il canale Contorta Sant'Angelo, che passa quindi dal mare fino al porto passeggeri della città senza avvicinarsi apparentemente più di tanto alla città. Sì, in realtà non dal mare direttamente, ma è una deviazione dell'esistente canale dei petroli, quello che come dire, ha già creato uno sconquasso alla laguna e all'ecosistema lagunare nella parte sud negli anni 60, prima della legge, deciso prima della legge speciale per Venezia, e quindi un danno che ci portiamo sulle spalle come carico, insomma, dalle generazioni precedenti. E quindi in base, come dire, è lo scavo di un ulteriore canale che porterebbe intanto uno squilibrio dell'ecosistema lagunare e ipotetici danni ulteriori alla laguna sud, diciamo, e poi verso la laguna centrale, perché questo canale porta all'attuale stazione marittima che è locata nel cuore della città, insomma, sì. Ma allora però è difficile, cioè è impossibile portare queste navi al porto per un percorso diverso da questo, cioè voi qual è la soluzione che proponete diversa, alternativa? Noi sosteniamo, diciamo, che non è più possibile che questo tipo di croceristica di queste dimensioni arrivi all'attuale stazione marittima. Possiamo continuare a ospitare crociere di dimensioni inferiori, insomma, le taglie sotto le 40.000 tonnellate, come è sempre stato fino a pochi anni fa, perché il trend in aumento è solo degli ultimi anni di questo tipo di croceristica. Quindi quel porto può servire ad altre soluzioni, un porto invece che possa accogliere le grandi navi, le navi crociera turistiche di quelle dimensioni. Quale dovrebbe essere? Dove può dovrebbe essere, secondo noi, progettato, verificato nell'area di Porto Marghera, e quindi dove oggi la chimica in disuso ormai ha abbandonato le aree, lasciandolo da bonificare. Cioè, dite, riutilizziamo quelle aree in disuso degli stabilimenti. La riqualificazione urbana a partire da aree da bonificare è uno dei principi saldi che dobbiamo vedere avanti a noi per avere anche lavoro, economie nuove che nascono nel territorio. Insomma, e quanto c'è uno studio di fattibilità di questo progetto? Perché voi vi lamentate del fatto che questo, mi scusi, faccio la domanda così spiego tutto, che vi lamentate del fatto che chi ha deciso questa cosa qua, il comitato, non ha preso in considerazione la vostra proposta, ma c'è una proposta articolata con un progetto anche economico di questa cosa? Allora, diciamo che noi come Legambiente non abbiamo una proposta, abbiamo dei desideri di sviluppo del territorio dal punto di vista della salvaguardia ecologica anche della città, e quindi poniamo sul tavolo le nostre obiezioni a progetti che possano essere dannosi alla laguna, al territorio. Abbiamo visto però delle proposte che sono arrivate sul tavolo al Comune di Venezia, insomma, e comunque anche al tavolo del Comitatone, che sono proposte alternative di progetti nella bocca di porto, quindi di porti offshore, di porti galleggianti in esterno alla laguna per fermare le navi prima della laguna, che sono anch'essi progetti, come dire, sicuramente migliori rispetto allo scavo di un canale interno, oppure un progetto di riqualificazione presentato dal comune proprio di Venezia, insomma quello che è stato portato dal sindaco come proposta alternativa di sviluppo di area portuale nelle aree di Porto Marghera. Ma questa cosa qua quanto potrebbe costare? Avete un'idea? Beh, di costi ancora non ci siamo fatti un'idea, dipende anche da cosa si vuole realizzare, da cosa si vuole adattare, da che infrastrutture si vogliono portare in quell'area per permettere uno sviluppo nuovo della città. Ma quanto quanto dista l'area che individuate voi dalla città di Venezia, dall'area di Porto Marghera? Diciamo, lato laguna, arrivando alla terraferma, a parte di Mestre Marghera, sono pochi chilometri, sono i 5 chilometri che separano, diciamo, il ponte della Libertà da Mestre, dalla penisola a Venezia. Vabbè, sembra una proposta ragionevole. Siccome insistevo sui costi, perché siccome si parla per lo scavo di questo canale di 115 milioni di euro, dello scavo di questo canale che dovrebbe consentire, secondo il progetto del governo, di fare entrare le grandi navi e arrivare comunque al porto attuale vicino alla città. Sono 100 milioni, sappiamo bene come vanno a finire le cose, probabilmente i costi sono anche destinati ad aumentare, non è una cifra leggera. Può darsi che con quello che proponete voi magari potrebbe costare anche di meno, chi lo sa, e quindi esserci un doppio vantaggio. Quindi magari fatelo un bel progetto, un bello studio, e speriamo che il governo riapra su questo e si trovi una soluzione soprattutto. Sì. Noi crediamo anche che non è una questione di costi dal punto di vista, appunto, strettamente di visione progettuale, c'è un tema di emergenza. Qui è stata messa sul tavolo un'emergenza che in realtà emergenza non è, perché parliamo di traffico crocieristico, insomma non è propriamente un'emergenza di salvaguardia del territorio, magari da altri rischi che ad esempio vediamo in Veneto, da frane, alluvioni e a situazioni da tenere sotto controllo. Lì le risorse si mettono in emergenza e si cerca di fare opere di salvaguardia, magari anche sbagliando ogni tanto. Ma c'è caso, una lobby delle grandi navi che spinge, secondo lei? Insomma, questo non lo so, nel senso non sono io solo a giudicare. Penso che ci siano degli interessi rispetto a un modello che può attendere che si decida il bene della città rispetto alla tutela di un ecosistema unico, incredibilmente prezioso, di una bellezza inestimabile che dobbiamo difendere tutti insieme. E quindi aspettare la giusta decisione e capire quali sono gli investimenti corretti da fare per permettere al territorio di svilupparsi e di non essere né depredato come accade ora, né come dire, dimenticato, abbandonato solo perché non ha seguito determinati interessi. Va bene, grazie, buona serata. Luigi Lazzaro, presidente dell'Ambiente Veneto, buona estate e buon viaggio, soprattutto perché c'ha il treno lì che lo aspetta. Marco dalla provincia di Reggio Emilia, buonasera. Buonasera, sono Marco. Prego. Sì, mi sono un po' sorpreso quando sento la notizia di quel farmacista che è reo di aver abbattuto un piccione. Sì. Io sono un veterinario buiatra, lavoro in stalle di vacche da latte. Sì. E il problema dei piccioni è enorme, sono centinaia e migliaia, si moltiplicano continuamente e mangiano nell'alimento destinato alle vacche, quindi siamo obbligati a farli abbattere, se ne abbatte sempre una percentuale minima, sempre con autorizzazione ovviamente, però sono portatori ovviamente poi di patologie su cui noi dobbiamo fare i conti continuamente, cioè, i piccioni, analisi per verificare. I piccioni portano delle malattie anche agli altri animali? Esatto, si capisce, apportano patologie a altri animali, quelli che alleviamo, alle vacche da latte in modo particolare, con conseguenze poi particolari, per cui dobbiamo continuamente fare analisi, e qualche animale tra l'altro viene poi destinato alla macellazione perché ha subito questo tipo di infezione. Quindi insomma il farmacista che si è trovato il piccione in farmacia ha fatto bene a scacciarlo e a ucciderlo. Ritrovato, cioè, a sentire un piccione è stato abbattuto quando qui abbiamo il problema di centinaia e migliaia, che io, intendiamoci, sono veterinario, sono amico degli animali, mi piacciono tutti i tipi di animali, però occorre un equilibrio che mi pare proprio che non venga sempre rispettato da specie, da quelli che si definiscono animalisti, in realtà non conoscono il problema. Ecco, io ho telefonato solo per illustrare quale può essere la problematica di va bene, di va bene. Grazie Marco, ha fatto benissimo, grazie, buona serata. Gabriella da Lecco. Sì, buonasera. Io in realtà volevo parlare, ricollegarmi un attimo al problema dei Vucumpra. La signora che diceva che sono molto fastidiosi e che ti mettono le colonnine al collo. Allora, io... Sì, è vero che qualche volta, scusi, e poi le faccio parlare, anche io ho qualche volta assistito, fanno il tentativo, ti lanciano il braccialettino per il bambino e poi indurti a comprare qualcosa. Però anche lì basta dire fermamente di no, Infatti, esattamente quello che volevo dire, ovvio che sono antipatici gli ambulanti per la spiaggia, e io sono stata a Rimini oltretutto un mese fa, è vero che vengono, però non bisogna lasciar loro fare quello che vogliono. Se tu gentilmente gli dici non hai bisogno e soprattutto non ti fai mettere la collana al collo, è ovvio che se ne vanno, perché a me è capitato dir loro queste cose e non essere più importunata, per cui insomma secondo me dipende molto anche da noi come ci relazioniamo con il resto del mondo probabilmente. Va bene, grazie Gabriella, grazie mille. Facciamo una piccolissima pausa, 800 24 00 24, poi mi raccomando continuate a chiamarci per arricchire la galleria dei racconti su cosa ha messo a rischio le vostre vacanze, il vostro agosto, di rovinarvi l'estate. Siamo partiti dalla storia del farmacista che è in corso in questo incidente del piccione a Milano, ma poi di storie estive ce ne sono tante da raccontare. Facciamo una pausa e torniamo tra un attimo. Si può fare l'attualità anche d'estate. Carlo Tavecchio, voti 310.0. Desidero ringraziare coloro che mi hanno confermato la loro fiducia e mi hanno fatto sentire il loro contributo e continuo appoggio anche in momenti difficili. Vorrei però ringraziare anche coloro che legittimamente hanno compiuto valutazioni diverse. Io intendo essere e lo sarò certamente il presidente di tutti, soprattutto di coloro che hanno espresso dissenso alla mia candidatura. E questo era Carlo Tavecchio, le sue primissime parole, subito fresco di elezione a presidente della FIGC poco fa. Allora, dove andiamo? Andiamo con Dino che ci chiama da Grosseto. Buonasera. Buonasera. Prego. Allora, un paio di cose. Una sugli animali. Perché gli animalisti, noi provincia abbastanza... Lo sentiamo. La densità di cacciatori è alta. Sì. Dove, scusi, che non abbiamo sentito. Dove, Dino? Nella provincia di Grosseto. Ok. Gli ambientalisti, io ce n'ho una in casa, soprattutto c'è mia sorella, ha diventato praticamente la dignità dell'uomo. Dino, non lo sentiamo bene, proviamo a vedere se si riesce a recuperare meglio il collegamento. Angelo da Bologna, buonasera. Pronto? Eccolo qua, Angelo, tocca a lei. Buonasera, intanto complimenti per l'equilibrio della conduzione. Grazie. Insomma, equilibrio, balliamo sul filo e poi ogni tanto si casca, prego. No, apprezzo l'equilibrio, infatti il mio intervento è riguardo all'aspetto degli animalisti che si proclamano tali, poi spesso e volentieri cadono in contraddizioni. Io non sono per gli integralismi, mi ricordo l'intervento di Paola prima che... Sì. Ha esordito dicendo: ma se entrava una zanzara. Mi fa sentire un attimo, scusi, i titoli della 7, poi le ridò la parola. Prego. L'Italia, il nostro paese chiuderà il 2014 con un PIL a meno 0,1% contro un più 0,5% della stima precedente. La mancata crescita inciderà sul rapporto deficit-PIL da mantenere al 3%. L'Unione Europea risponde a Renzi: le riforme sono necessarie, ma come farle decide Roma. L'Italia ha già assunto questo impegno. Il governo lavora all'agenda economica, Renzi incontrerà Napolitano in vista della nota di aggiornamento del DEF, il nuovo centrodestra riapre una vecchia questione, aboliamo l'articolo 18, è solo un totem anni 70, la modifica da inserire subito nel decreto sblocca Italia, ma il Partito Democratico frena, sbagliato anticipare la discussione a strumenti che non sono propri. Per annunciare misure straordinarie contro la contraffazione e l'abusivismo commerciale sulle spiagge, il ministro Alfano rispolvera il termine Vucumpra e il clima politico si infiamma, reazioni unanimi di condanna arrivano dal PD, dal sindacato di polizia e dalla Caritas per l'espressione razzista usata dal ministro. Caustica la Lega con Salvini, Alfano incoerente, italiani stufi dei Vucumpra, è lui che ne permette l'arrivo. L'Iraq precipita nel caos politico, il premier sciita al-Maliki, che non voleva rinunciare al terzo mandato, perde l'appoggio della sua stessa coalizione, invoca la piazza, ma l'atmosfera da golpe non influenza il presidente che affida l'incarico di formare il nuovo governo ad al-Abadi, rivale dell'ex premier. In questo clima continua l'odissea dei profughi e l'avanzata delle milizie jihadiste che sarebbero ormai a poco più di un centinaio di chilometri dalla capitale Baghdad, mentre al nord continuano i massacri, i curdi denunciano, è in corso un genocidio. Sarò il presidente di tutti, ha detto Carlo Tavecchio, eletto al terzo scrutinio presidente della Federcalcio, un voto senza sorprese, restano le polemiche e Tavecchio che dovrà tentare di riformare il calcio, compito difficile, dovrà fare i conti con una Serie A che sul suo nome si è spaccata in due. E va bene, riprendiamo con Angelo che ci stava chiamando da Bologna. Sì, dicevo, sì. Sono per l'equilibrio e sono sempre molto dubbioso con gli estremismi e gli integralismi, per cui... Gli animalisti sono un po' integralisti, sì. Adesso non vorrei così generalizzare, però l'intervento di Paola prima è cominciato dicendo, allora questo farmacista se entrava una zanzara cosa faceva? Usava il napalm. No, usava probabilmente lo spray o la mano per schiacciarla come facciamo tutti, quindi voglio dire... Oppure se era un calabrone provava a farlo uscire. Senza necessariamente ammazzarlo, però un piccione devi farlo uscire, come fai? Lo devi prendere a scopare? No, ma voglio dire, magari lui ci ha anche provato in buona fede e non credo che la sua volontà fosse di ucciderlo. Sarà capitato come può capitare. Vogliamo allora condannare tutti quelli che magari di notte per la strada mettono sotto, che ne so, un riccio piuttosto che qualche altro animale, una volpe o qualcosa? Cioè, mi sembra che qua si stia un po' esagerando. esagerando, anche perché alla fine ci si dimentica che pure gli esseri umani sono animali, e allora non capisco perché bisogna considerare animali di serie A e animali di serie B, senza parlare poi a proposito dei dromedari, della schiavitù, perché siamo tutti convinti che gli animali da compagnia abbiano una certa autenticazione, mentre invece a mio parere sono schiavi pure quelli. Io amo gli animali, però tenerli in casa mi sembra un atto di, dal mio punto di vista, di egoismo. Ma soprattutto nel caso del piccione, animale che notoriamente porta malattie, non è che possiamo fare tappeti rossi per farle entrare in casa e darci a bere il tè insieme, insomma, questo non si può fare. Sarà anche colpa dell'uomo se il piccione è ridotto così come animale, però questo dobbiamo prendere atto. Andiamo con Dino da Grosseto, che abbiamo forse recuperato. Dino? Sì, penso di sì. Eccolo qua, perfetto. Bene, allora se mi sentite... Ci stava dicendo che c'è un sacco di... che intanto che lei c'è un animalista in famiglia e sua sorella. Sì, è una roba da litigate, litigate? No, come? Litigate tra voi su questo? No, assolutamente. Discorriamo in maniera fluida, anche direi, però contrapposta, è dicotomica la posizione. Sì. Ma il problema si fonda su una cosa fondamentale: la dignità dell'uomo è uguale o non è uguale a quella dell'animale? Boh, chi lo sa? Ecco, no. Una domanda troppo difficile, no, a cui. La dignità, no. La vita dell'uomo sicuramente è essere senziente, essere con un sistema nervoso, no, con un'anima. Una piramide meritocratica di chissà quali valori, no, però voglio dire, l'uomo è una cosa, l'animale è un altro, insomma. Sono d'accordo con lei, sì. Oltretutto questa mania degli animalisti, poi sono i primi che sterilizzano tutti i gatti, non c'è più un gatto normale, hanno una faccia, non si legge neanche, sono proprio appallottolati. Verrebbe da dire, Dino, sono animalisti con gli animali degli altri, anziché con sì, i loro. Sì, probabilmente sì. Ma il problema è che poi non sono umanisti, perché poi più diventano animalisti e meno diventano disposti a dare verso l'uomo. Vabbè, Dino, questo voleva dire. Però lei ci stava dicendo anche che lì a Grosseto si spara parecchio, c'è una zona di caccia. No, la provincia di Grosseto è una provincia storicamente legata alla caccia, anche perché il territorio aperto è moltissimo. Siamo una delle province in Italia che ha un tasso di urbanizzazione più bassa, abbiamo pochissime persone per un territorio molto grande, quindi la caccia è una cultura antica, anche se poi molto combattuta, perché le leggi sono incredibili. Sì. Prima che sentivo delle nutrie, da noi il problema maggiore è creato prevalentemente dalle gazze, per esempio. Va bene, vogliono va bene. Far vivere le gazze. Che problema, che problema creano le gazze? Le gazze uccidono qualunque tipo di cosa, mangiano... La gazza ladra. Uova, la gazza ladra, esatto. Mangiano lucertole, ma a me addirittura mi mangiano le tartarughe in giardino. Lei c'ha le tartarughe in giardino? Sì, esatto. E le gazze gliela mangiano? Le gazze me la mangiano, addirittura una è molto poco politicamente, animalmente scorrettissimo, però me l'ha mangiata una grande afferrandola con una zampa e con il becco dal posteriore l'ha mangiata. Ma ci sarà un motivo se la natura ha fatto la gazza ladra? Forse in passato serviva qualche cosa nell'equilibrio tra gli animali, questa sua caratteristica. Grazie Dino, buona serata. Andiamo con Giuseppe che chiama da Milano. Sì, buonasera. Buonasera signor Valentino. Sì. Senti, ho sentito una serie di cose, mi rendo conto che ho pochissimo tempo, per cui mi ricollego all'ultima telefonata. Se avere un'anima significa sterminare 50 miliardi di animali ogni anno in campi di concentramento a ciò predisposti, che sono i mattatoi, non so se lei ne ha visto mai uno, no. meglio non avere alcuna anima, meglio non essere un essere senziente. Anche gli animali per legge sono esseri senzienti, ci vuole anche la legge per dirlo. E questa è la prima obiezione che vi faccio, siccome ho sentito una serie di cose veramente per me... del tutto inconcepibile, anche se le comprendo, ma questo è il primo esempio che le faccio, il mattatoio. No, il mattatoio, ma non abbiamo parlato fino ad ora di mattatoio. No, mattatoio infatti è peggio della caccia, secondo me, per gli animali. Facciamo centrare tutto. Sì. Poi siccome sentivo degli animali che invadono l'ambiente, qua di fatto 100 il numero delle foreste di 7-500 anni fa, il 92% sono scomparse grazie a noi negli ultimi 400 anni. Sì. Quindi la specie invasiva, come sostengono molti antropologi. Ma l'uomo, l'uomo fa tantissimi danni, siamo, su questo siamo d'accordo. Però allora, lei ha citato i mattatoi, è d'accordo con me che è meglio la caccia del mattatoio? È d'accordo con me che sarebbe meglio la caccia del mattatoio? No, e guarda, il no. Mi è complesso, non posso iniziare a farlo, bisogna credere. Sì, le credo sulla fiducia e a questo punto anche la saluto, forse, perché non si sente, o si sente, si riesce a sentirlo. No, e non lo so, guardi, io sto provando, spero che mi abbiano sentito invece, ci tenevo. Sì, no, no, adesso la risentiamo. Lei no, ha detto che... No, il discorso è complesso, sì. Guardi, una cosa, le spiego, io studio antropologia, sono addetto del mestiere, mi creda. Non parlo a vanvera, ammesso che un uomo comune non possa non parlare a vanvera. La predazione è una cosa, storicamente, la caccia è un'altra cosa. Sono due cose completamente differenti. Se dobbiamo entrare in un dialogo, in una discussione seria su questo, vedrà che la caccia è un non senso, la predazione che c'era 10.000 anni fa. No, no, ma semplicemente io facevo un parallelismo forse facile, troppo banale. No, lei ha citato il mattatoio, siccome ne ho sentito parlare, qualcosa forse ho visto anch'io, e allora penso anch'io che sia una cosa abbastanza terribile, diciamo, il modo in cui gli animali vengono allevati e ammazzati. Allora, provocatoriamente le ho chiesto se non era meglio la caccia. Però giustamente lei su questo non vuole andare oltre, non vuole rispondere. Grazie, buona serata. Adesso è il momento di tirare un po' il fiato e di parlare con Rossano Ercolini, il maestro di Capannori. It's a magic number. Yes, it is. Rossano, buonasera. Buonasera. Tiraci fuori tu da questa questione con gli animali, animalisti, perché ci siamo infilati in un ginepraio. Non ti chiedo cosa ne pensi, perché non vorrei aprirne un altro di ginepraio. Lasciamo perdere. Ma sei in vacanza, vai in vacanza. Rossano Ercolini, il nostro uomo delle risorse nei rifiuti, il nostro divulgatore in questo senso. Forse una settimana, ma più che altro per rilassarmi. Ho bisogno un po' di staccare. Perché adesso sei sempre in azione. Vabbè, tu fai il maestro, quindi la scuola adesso è chiusa. Per cui approfitto, sì, mi dedico un po' a lavorare su ciò che è rimasto inattivo, a cui tengo, quindi certo. Utilizzo il tempo in quella. Poi il primo settembre mi riprendono le riunioni in preparazione dell'inizio effettivo della scuola con i bambini. Perché però, diciamolo, tutto ricordiamolo, bene, che tutto è nato in una scuola, davanti ai ragazzi della sua scuola, Rossano Ercolini, tanti anni fa, ha aperto, questo è quello che tu racconti, ma è quello che è successo, davvero un sacco dei rifiuti, sì. E ha cominciato ad analizzarlo con i bambini, a fare capire a loro, capire anche noi per primi, che questi rifiuti non sono tali, ma sono qualcos'altro. Che anno era quando hai fatto questa cosa? Ma questo era nel 94, nel 94, 94, quando 95. Si parlava ancora abbastanza poco, 20 anni fa dei rifiuti se ne parlava sicuramente. Devo dire che è passato il tempo, anche se per una parte, diciamo, all'epoca eravamo un po' il perno dell'ambientalismo lucchese locale, sì. erano temi molto sentiti, anche se coinvolgevano i pionieri, ma erano molto sentiti, quindi non fu un caso che poi certo. Si sviluppò quel movimento e che ci fosse così tanta attenzione. Perché poi anche in quel caso tutto nacque da un rifiuto di costruire, e credo che fosse un inceneritore, l'impianto, insomma, lo racconti anche nel tuo libro Non bruciamo il futuro, però è uno di quei casi in cui da un rifiuto poi è nata una proposta grandissima che adesso sta dilagando, ed è quella di riciclare, recuperare, rifiuti zero, tutta la battaglia che stai portando avanti. Rossano, facciamo, se ci consenti, una brevissima pausa per il traffico che cade proprio adesso e poi riprendiamo il discorso. Strade in diretta. Buonasera, segnaliamo code a Milano per un incidente sulla tangenziale ovest tra la 4 e Roppero in direzione Laghi. Sulla 4 Milano-Brescia, traffico a rilento per temporali tra Seriate e Rovato. Traffico intenso a Napoli, in tangenziale si incontrano code in uscita fuori grotta verso Pozzuoli, mentre per lavori rallentamenti sulla 3 Salerno-Reggio Calabria tra Lauria Sud e Laino Borgo in direzione di Reggio Calabria. Per traffico intenso segnaliamo code anche sul raccordo Bettolle-Perugia a Perugia Ovest in direzione Bettolle. È tutto, prudenza alla guida e fate buon viaggio. Si può fare! L'attualità, anche d'estate. Molti sono in vacanza proprio in queste ore, naturalmente in questi giorni, Rossano, Ercolini, e allora magari si va in albergo e si possono vedere anche degli sprechi, molti sprechi, c'è tanta gente oggi sensibile a questo argomento e se ne accorge. E che cosa si può fare e che cosa stanno già facendo alcune serie di alberghi per limitare questi sprechi? Sì, diciamo... L'accoglienza turistica ancora purtroppo si fonda sulla cosiddetta monodose, la monodose intesa con la saponetta che ti viene messa nel bagno della camera, oppure la monodose al mattino quando fai la colazione, oppure l'acqua minerale in bottiglietta plastica. Ecco, a fronte di questo dato, che per l'Italia è importantissimo perché il turismo è davvero una grandissima risorsa, una grandissima opportunità, ci sono dei progetti come il progetto Hotel e Ristoranti Rifiuti Zero che stanno significativamente invertendo la rotta. Sì. Ci sono dei grandi alberghi, stiamo parlando di alberghi anche di con tante stelle e anche di grande rilevanza. Io faccio riferimento all'Hotel Conca Park di Sorrento, che è una catena di alberghi con un progetto pilota che riguarda 250 camere con 50 addetti, ma anche l'Hotel Royal di Napoli, altre esperienze minori che praticamente sostituiscono tutte le monodosi. Nel caso di l'Hotel Conca Park, meravigliosamente hanno praticamente eliminato anche nella colazione tutte le monodosi e tutto viene spillato dalla marmellatina al succo di frutta, al latte, il burro in pani anziché nella monodose con la bustina di alluminio. Praticamente l'unica cosa che rimane, ma che va ad autocompostaggio, sono le bucce di melone. Io ho avuto l'onore e il piacere. Le bucce di melone? Le bucce di melone, perché mentre per esempio lo scarto della questo lavoro ha significato una formazione intensa del personale di cucina, i camerieri, i maître, tutto il personale è stato formato, è uno sforzo davvero rilevantissimo. Io ho detto che forse quello dell'Hotel Conca Park è il punto più alto di Rifiuti Zero a livello internazionale in questo momento, è un vanto per il nostro paese. Poi i colori, la luce di Sorrento, il mare di Sorrento aiutano, quelli aiutano. Dici anche una cosa, ma per questi alberghi, per chi volesse in qualche modo passare dall'altra parte, fare la stessa cosa, si rende conto che in effetti questo spreco non può essere più tollerabile. Può essere anche un risparmio, no? È ovvio, perché... Certo. Certo che prima di tutto è anche marketing, perché sempre facendo l'esempio di prima dell'Hotel Conca Park, hanno clientela prevalentemente inglese e hanno fatto una customer satisfaction, cioè un'indagine tra i clienti, i quali apprezzano moltissimo questa attivazione delle buone pratiche. Quindi è una innovazione che certamente all'inizio ha significato investimenti. Però col tempo, negli anni, sicuramente ci saranno ritorni economici e anche, diciamo, sul piano della competitività un valore aggiunto rispetto a chi invece staticamente non cambia. Quindi bellissimo fare colazione all'Hotel Conca Park, è stato una soddisfazione incredibile vedere che è stato Antonino Esposito, il consulente che abbiamo premiato il 21 giugno a Capannori come Zero Waster dell'anno, che ha curato in dettaglio ogni singolo particolare, riproponendo quello che diciamo spesso: Rifiuti Zero è un ideale, ma necessita anche di competenze e di expertise, deve dare risposta ad ogni problema perché ogni problema abbia la sua soluzione. Bellissima la scenografia, io e Paul Connett siamo stati assunti a testimonial di questo progetto. venimmo accolti e la scenografia di fondo era tutto quello che era stato evitato dalla carta nella registrazione, che viene evitata ovviamente con i sistemi informatici, alle bottiglie di plastica o anche alle stesse bottiglie di vetro, a tutto il resto. La carta igienica che viene adoperata è carta da riciclo del Tetra Pak, quella marroncina, molto elegante, molto fine, ma da riciclo. Quindi ecco, una cura maniacale che effettivamente si dice che Rifiuti Zero non è soltanto così un andare incontro alla passione, alle emozioni, a qualcosa, al bisogno del nuovo, ma è qualcosa che davvero ci fa può essere anche uno stile, una passione. Certo, sì, uno stile, una passione, ma anche una capacità, perché poi i clienti vogliono star bene, e quando i clienti arrivano a dire che tutto questo lo vivono con grande soddisfazione, perché magari ci vanno con i bambini e i bambini si formano, quindi è un'accoglienza, non mordi e fuggi, ma anche un'accoglienza che ti porta a godere del meraviglioso ambiente e paesaggio italiano, e nello stesso tempo però ti comporti in modo civile e rispettoso dell'ambiente e del territorio che ti accoglie. Quindi, ecco, ma cosa ci vuole perché adesso si passi da casi isolati, per quanto diciamo importanti, come quello che ci hai raccontato tu, a qualcosa di più sistematico, cioè che avvenga spesso? Cosa ci vuole in maniera più frequente? Degli incentivi? Deve intervenire il governo, l'ONU? Cosa bisogna fare? Sì, certamente, cioè questi progetti pilota che dimostrano che si può fare, come dite voi, chiaramente devono essere messi a sistema. Certamente il progetto Hotel Rifiuti Zero è in sé già importante, perché per esempio comuni come Forte dei Marmi, oppure Maiori sulla costa amalfitana, o Ravello sulla costa amalfitana, patrimonio dell'UNESCO, oppure Forte dei Marmi, noto, no, per i VIP che vanno in vacanza. Già questi comuni adottano la strategia Rifiuti Zero e le buone pratiche. Perché? Perché è un valore aggiunto, non lo fanno soltanto per rispettare. Tenete conto che sono realtà dove d'inverno ci sono 5.000, 10.000 persone, d'estate ce ne sono 60, 70.000, quindi sarebbe anche un impatto devastante se non ci fosse l'attenzione così come questi comuni dimostrano. Quindi già molto può fare questo progetto, però poi deve essere la politica, l'istituzione, il Parlamento che accolgono. E anche l'imprenditoria, aggiungiamo, perché questa è una cosa libera, perché la politica diciamo spesso deve fare, speriamo che faccia, però anche avviare una bella attività imprenditoriale in questo campo, in un momento di crisi economica, visto il successo che sta avendo l'iniziativa, è un suggerimento che così però, la buttiamo lì. Guarda, condivido pienamente, però per esempio che cosa chiedono gli imprenditori anche del Conca Park oppure dell'Hotel Royal? Dicono, però allora quando noi risparmiamo nella produzione dei rifiuti, cioè non li produciamo praticamente, noi dovremmo pagare meno. Certo, ci vogliono degli incentivi, sicuramente, la bolletta intelligente. Alleanza tra decisore politico, comunità rappresentata da noi, dagli attivisti, ma anche da parte diciamo del mondo imprenditoriale, e questa alleanza tripartita sta alla base poi del successo, dell'insuccesso della strategia Rifiuti Zero. Bene, grazie mille ancora, buona serata. Prego, buona estate e a presto. Ciao Rossano, Rossano Ercolini. Ancora con qualche ascoltatore prima di chiudere, allora direi di andare a Mario che ci chiama da Pisa. Buonasera. Buonasera, giusto una precisazione relativamente ai dromedari, appunto, di San Rossore. I dromedari a Pisa ci sono stati fino al 1945, quando durante la guerra li mangiavano per fame, e gli ultimi furono uccisi proprio da tedeschi in ritirata. Scusi, ma lei cosa fa? Lo storico nella vita? È uno storico, no? No, io sono ragioniere, non sono storico. Però sa questa cosa, Certo, i dromedari a Pisa c'erano da come minimo 200 anni. Il famoso fiume morto a Pisa, il ventennio che fu scavato, e i dromedari, ho detto sì ma non so di cosa sta parlando. Il fiume morto che cos'è? Il fiume morto è un canale che attraversa tutto San Rossore, sbocca poi ci stavano i dromedari, quindi furono utilizzati i dromedari di San Rossore al posto al pari dei cavalli, dei buoi, per tirar via l'arena, per tirar via la terra. Quindi venivano utilizzati come animali da soma. Da lavoro, sì, appunto, sì, sì, come altri animali. E dei buoi. Sì. Quindi... ci sono sempre stati, per cui non è nulla. Ma di io nuovo, credo, ecco, che gli scout gliel'avranno regalati, ci sarà stato un motivo. Secondo me lo sapevano che c'era una tradizione, certo, e l'hanno rinnovata. Ma quindi, hanno rimesso in piedi la tradizione. Una cosa che c'era già. Rossore ci sono sempre stati. Va bene, grazie, okay. Mario, per questa sua, prego, precisazione. È bello che lui fa il commercialista o ragioniere, ha detto, però c'ha la passione per la storia della sua città, quindi era informato sull'esistenza dei dromedari a Pisa fin dal 1945. Aldo da Venezia. Aldo, abbassi il telefono e ci ascolti, abbassi la radio e ci ascolti. Pronto? Al telefono. Sì. Sì, buonasera. Spenga la radio e ci ascolti al telefono, grazie. Per quanti grandi navi. Pronto? Aldo, vada. Niente, Aldo non va. Arrivederci, anzi, a risentirci. Andiamo con Valeria, che ci chiama da Varese. Buonasera. Oh, ma stasera sono tutti addormentati. Giovanni da Brescia, proviamo allora. Giovanni, lei è sveglio? Pronto? Lei sì. Senta, volevo dire due cose alla signora Paola, l'animalista. Sì? Che i cammelli, non, cioè i dromedari, non possono lavorare, i cavalli non possono lavorare perché sennò sono schiavi. Ma non so, ha mai pensato agli extracomunitari che stanno 12 ore a raccogliere i pomodori? Quelli cosa sono? Sì, o anche alle persone non extracomunitari, insomma, agli no, esseri umani che lavorano. Comunque, sì, sì, può sì, lavorare sì, anche un cavallo. Ma era una piccola considerazione. Giusto, volevo dire una cosa, io sono cassa integrato e fra un po' finisce la cassa integrazione. Aia. Se va bene, mi arrangerò. In che azienda lavora lei? Io lavorava. Anche un buon... In che azienda lavora lei? Eh? In che azienda lavora? Lavoravo in un'azienda cartaria che ha chiuso. Facevate carta? Sì, pacchi, carta, scatole, tutte quelle cose. E adesso è chiusa? Adesso è chiusa. Ma per via della crisi. Ma volevo dire una cosa, io mi arrangio, io riesco a fare di tutto, riesco a fare il meccanico, riesco a fare il falegname, eccetera. Però lo faccio a titolo, cioè così, come hobby. Io se devo cambiare i freni della mia macchina, li cambio, la marmitta, eccetera. Sono andato, vado da meccanici o da falegnami, sono i due lavori che mi interesserebbe poter fare come professione. Per imparare il mestiere, no? Io sì, andrei anche a lavorare gratis, nessuno mi prende perché ci sono le leggi che lo impediscono. Che leggi? Che cosa succede? Che ne so io. Vabbè, la legge è che lei adesso è in cassa integrazione, quindi non può fare un altro lavoro. Ma io lavorerei gratis, imparo il mestiere. Sì, però scusi, posso, credo che sia semplicemente gratis, legato al fatto che lei è in cassa integrazione, quindi ha uno status, riceve un sussidio, non può andare a lavorare. Però ha detto la cassa integrazione sta per finire. Ahimè, non chiedo neanche una lira, vengo, imparo, sì, e quando finirà la cassa integrazione mi apro la mia attività. Giovanni, ha capito, deve aspettare che finisca la cassa integrazione, poi lo può fare. Grazie, comunque buona serata. Andiamo con William, che ci chiama da Benevento. Sì, sì, salve. No, sempre riferimento agli animalisti, buonasera. Sì. Io non riesco mai a capire questo relativismo e razzismo da parte degli animalisti. Loro stanno lì a discriminare tra alcune razze rispetto ad altre e non capisco perché questo possa essere giustificato, addirittura non togliere un albero perché casomai ostruisce il passaggio all'uomo, a qualcosa, e poi stanno lì a godersi il tech di prima scelta in un divano, a portare i cagnolini con il collare di Saint Laurent in piazza Milano. Cioè, questa è una forma veramente di demenza umana, la degenerazione dell'intelligenza umana che è figlia di un'opulenza e basta. Guardi, non tutti quelli che amano gli animali, anche molto, sono colti dalla sindrome che diceva lei. Molti, purtroppo, sì. Aldo da Venezia, l'abbiamo recuperato? Sì, pronto. Eccolo qua, prego. Buonasera. Buonasera. Da Venezia. Sì. Grandi navi. Sì. Ma è possibile fare tutto questo po' di pandemonio per le grandi navi quando la soluzione sarebbe tanto semplice? E quale basta sarebbe? Far arrivare le navi alla bocca di porto di San Nicolò e farla attraccare all'ex idroscalo di Venezia. Dove si trova questo idroscalo? Dove si trova? Quanto lontano da Venezia? Ma è lontano 10 minuti di motonave. E c'è già un porto lì? C'è già un porto? Aldo, c'è già un porto? Per arrivare alle navi da 40.000 sì. tonnellate, cioè le vere navi, alla sì. stazione di marittima, mentre le grandi navi, quelle che noi in dialetto chiamiamo chebe per osei, cioè gabbiette per uccellini. Com'è per che si dice in dialetto? Chebe per osei. Sì. Cioè gabbiette per canarini. Viste dal di fuori sono condomini galleggianti e basta, e sono brutte. Però, secondo me sì. potrebbero attraccare. Va bene Aldo, grazie, non ne sappiamo molto. Sì, sì, grazie Aldo, buona serata. Non ne sappiamo molto di questo idroscalo. Lei non ci sente, non possiamo fare delle domande, quindi peccato, non sapremo mai niente più dell'idroscalo, più di quello che già sappiamo. Anna Maria dalla provincia di Milano, buonasera. Sono io, buonasera. Sì. Senta, non so niente della faccenda del rossore del dromedario eccetera, intervengo solo per questo, che mi ha fatto molto incavolare quel signore che ha detto la schiavitù degli animali in casa, ma non sa neanche quello che dice. Io sono un animalista, recupero un sacco di animali abbandonati da queste madri cretine che comprano comprano gli animali per i bambini e poi li abbandonano eccetera. Abbiate un po' di rispetto per noi. Questi miei animali raccolti per strada, ma non ha detto proprio, non ha detto, non mi pare che abbia usato, scusi Anna Maria, stia tranquilla, stia serena un attimo, stia serena Anna Maria, stia tranquilla Anna Maria, che così le viene un infarto. Non ha detto la gabbia, ha detto che lui non terrebbe. Anna Maria, stia calma, sta calma, pronto? No, non gliene frega un tubo di sta ragazza. Vede qual è il problema degli animalisti? Lei sta facendo una cattivissima pubblicità agli amanti degli animali, perché se sono tutti esaltati e pazzi come lei, stiamo messi male. Va bene, tutto per questa sera, ci sentiamo domani 18:20:30 come sempre. Io ringrazio Andrea Piana, Lorenzo Nespoli, Camilla Tomadini e Marco Lombardo questa sera, Fabio Cantadori in regia. Ci sentiamo domani naturalmente. Buona serata a tutti, ciao da Alessio Maurizi, ciao ciao.